L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Allora, da quando noi, caro Parenzo, ci siamo dichiarati a favore della legalizzazione della prostituzione, cioè del fatto che tutti gli italiani possano liberamente andare a prostitute in locali autorizzati, in locali dove c'è un controllo sanitario, dove finalmente le cosiddette prostitute possono pagare le tasse, contribuire al fisco italiano, adesso salgono tutti su questo carro. Sul famoso carro delle puttane. Che non è carroccio, perché ho anche firmato solo questo referendum, il referendum proposto da Salvini sulla legalizzazione della prostituzione, insieme all'amica Efe Balla. Ma una buona ne fa Salvini ogni tanto, una. Ma no, adesso una buona, ne farà più di una magari, no? Beh, allora, pensa un po', da chi è venuta oggi la predica a favore di queste robe qui? Intanto buonasera. Buonasera, sì, buonasera, i saluti, dove odio i saluti, sai, queste cose formali, saluti, detesta, dove siamo, tutto. Cose odiose, cose... Dove siamo, diciamolo però. Ma diciamo. Sì, adesso lo diciamo, per carità, sennò poi ci crocifiggono, non avete detto dove siete, eccetera, eccetera, una cosa insopportabile di tutte le trasmissioni radiofoniche in cui fanno buongiorno, come state, buongiorno. Benvenuti agli ascoltatori, siamo qui, siamo buona serata, da cancellare tutto questo, cancellare via, sopprimere tutto. Allora, oggi sul carro di chi è a favore della legalizzazione della prostituzione è salito un signore che ha qualche attinenza, però è una battuta pessima, lo so, è una battuta pessima, tu non lo sai perché non hai fatto nulla come al solito, no, sì. Però c'è Foglio una persona che è, che è salita, che si chiama Passera, il signor Passera. Lo so che è una battuta pessima, orrenda, sì, lo so, è orrenda, però Passera oggi, non a caso, omen nomen, si è dichiarato. Poi Passera quanto c'ha? L'1%? L'2%? Quanto c'ha? Quale Passera? Ah, il banchiere, dici, sì, Passera. È nato, è nato morto già quel movimento. Però dice partito della Passera, già quello potrebbe funzionare. Quello di più. Vota Passera, già meglio, quello potrebbe... Ecco, lei, Cruciani, che è un esperto della materia. No, però hai detto, secondo me... no, però hai detto molto bene. Dobbiamo dare un consiglio ai signori che sono tanti, sì, intorno alla comunicazione di Passera. Che sono lo... tanti, lo sai, pagati dal signor Passera. Adesso ci ammazzerà per questo. Sì, sono pagati dal signor Passera, che ha tanti soldi. È meglio, non it, come si chiama là, il movimento Italia Unica? Sì. Italia Unica, Italia Unica, cosa orrenda. Non è Italia che mi occupo Unica, tutti i giorni della vicenda. Dovresti, Passera, perché fai la politica. Sì. Italia Unica è un nome terrificante, orrendo. Sì. È meglio Viva Passera, Forza Passera. Il movimento Passera. Beh, sarebbe straordinario. Movimento, comunque, oppure Passera in movimento anche può essere un'alternativa. No, quello è brutto, Passera in movimento. Beh, che può evocare, ma anche... Si sposta. Non lo so. Comunque, a favore della legalizzazione della prostituzione. Siccome non ho sentito questa cosa, sono curioso delle come dire, delle motivazioni, no? E sentiamo Passera, dai. Sarebbe d'accordo con la riapertura delle case chiuse? Secondo me è una professione con tutti i limiti che lui diceva che deve essere regolamentata, non fosse altro a tutela delle donne. Poi, naturalmente, quindi la risposta è sì. La risposta è sì. Tutela delle donne, però bravo, devo dire bravo, che, no, so, l'ha detto in maniera normale, diciamo, no? E che doveva dire? Mica è la zanzara, no, l'ha detto in maniera Corrado normale. Passera, no, scusami, dovevamo spiegare un po' di più. Comunque è a favore dell'apertura delle case chiuse, noi lo accogliamo volentieri, diamo anche un consiglio. Il consiglio è quello di chiamare, togliere Italia Unica, Forza Passera. Sì, forse è più efficace. Lista Passera. Lista, no, anche, lista. Sì, sì, oggi sì. Salvini ha detto che chiamerà col suo nome delle liste che si presenteranno insieme a lui nel centro-sud, no? Per cui si può fare anche Forza Passera. Allora, un altro personaggio straordinario che ho sentito oggi è il signor D'Agostino, il mio amico D'Agostino. Roberto D'Agostino, sì. Il quale ha detto che quando chiude gli occhi ha delle fantasie erotiche. Sì. Beh, è fantastico tutto ciò. Come vedi, ma a me anni ha sto D'Agostino? Come vedi, a me della politica... Ma tutti non... fissati siete proprio. Perché siamo fissati? Cioè, ci vedo il tarlo del sesso nella testa. No, D'Agostino ha 60. Fate pace con... Tu ormai hai 60 anni, fai pace con te stesso. Vabbè, ma uno manca di notte può sognare, ma il no, sesso. No, ma rilassati, pensa, no... Dici di no. Ma dai. D'Agostino, dai, fammi sentire. D'Agostino. cioè siamo tutti siamo tutti malati di pornografia. Quando io chiudo gli occhi la sera, abbiamo tutte le nostre fantasie erotiche, benissimo. No? Non capisco per quale motivo uno deve cominciare a dire la pornografia viene chiamata erotismo quando stiamo in società, poi quando chiudiamo gli occhi diventa pornografia. Bene. Vabbè, non si è capito niente da sta cosa. Comunque ha detto che la pornografia, parlare di eros e di sesso non è uno scandalo, dovrebbe essere una cosa normale, caro Parenzo, una cosa normalissima. Comunque parliamo di cose più serie, dai. Renzi si è sentito in due più serie, cioè di cose di cui parlano, di cui vogliamo, di cui qualcuno vuole che ogni tanto parliamo, diciamo così. Allora Renzi dice: sono di sinistra, ma non come dice, cioè non come ha detto Morandi, cioè uno che risponde a Morandi, cioè il dibattito è tra il cantautore, Gianni Morandi, certo. Ha detto che Renzi non è di sinistra. Lui dice invece sono di sinistra, non come ha detto Morandi. Ma posso dire, ma perché risponde? Ma chi se ne fotte di Morandi? Perché il Presidente del Consiglio deve rispondere però a Morandi? Morandi è molto nazionalpopolare, cioè Morandi è uno di quelli. Sposta secondo te più voti, Morandi o la Camusso, ad esempio? Domanda. No, ancora la Camusso c'ha le teste della CGIL. Che sai, ma che signor Morandi riempie gli stadi, fa i concerti. Dai, si presenta e piglierà 1000 voti. Ma infatti non è che si presenta, però un po' orienta. Pigliamo più voti noi di Morandi. Ma questo è sicuro. Dai, su. Renzi, dai. Politicamente Morandi ha più volte espresso questa posizione, anche in passato durante le primarie, è una posizione che rispetto. Penso che non sia così, cioè io penso di essere un uomo di una sinistra diversa da quella del passato. Vabbè, io per caricarmi ho bisogno di parlare di certe cose. Allora, ti faccio invece sentire un giornalista della RAI, il quale si è fissato a... il signor Iacona, grande Riccardo Iacona, come il no? quale ha fatto un libro contro la prostituzione. Oh, ha fatto benissimo. Mamma mia, amico mio, come mi piace questo argomento. Ha fatto benissimo. Ma che? Ha fatto malissimo. Adesso non ho letto il libro, cioè, quindi non conosco la tesi. Secondo lui gli italiani sono colpevoli del fatto di andare a zoccola a prostituta. La tesi non è una sbagliata, cosa indegna, cioè, è vero, l'ho detto tante indegna. Volte l'ho detto. Una cosa indegna. Sono complici dello sfruttamento di ragazze, questo non c'è dubbio, questo è molto serio. Ma perché continui a dire questa cosa? Ma questo non c'è dubbio. Continui a dire questa cosa. Ma guarda, su questo non è che si può scherzare. So chi va lì è un utilizzatore finale, per usare un termine ormai politico e noto, di ragazze sfruttate dal racket. Ma questo è scritto, basta comunque chiedere a qualsiasi poliziotto che batte le strade. Qualsiasi cosa di Iacona, qualsiasi cosa di Iacona. Attorno alla questione della prostituzione in Italia c'è una grande complicità, molto larga, molto trasversale. In che senso? Complicità nel senso che non viene considerata una cosa così spregevole. Niente. Ma non è vero, viene considerata spregevole quando c'è lo sfruttamento, viene considerata normale quando uno, per motivi vari, perché ha bisogno, perché vuole, perché ha voglia, perché vuole esagerare, perché... adesso non mi fare... Sì, ma se nell'80% dai, dei casi ci sono ragazze ma sfruttate... Ma non è vero. Le tue voglie te le leghi, ti fai un nodo... ti guardi un filmino a casa e non sfrutti le ragazze che stanno sulla strada vittime del racket albanese. Voglio combattere un po', voglio combattere un po' con l'amico Red Ronnie. Ciao Red, come stai? Benissimo, e voi? Ma dov'è? Bene, a Bologna, dov'è? Ah, perché è la radio questa, non sì, è che la radio, non è qua. Non mi ricordo che non è qua. L'hai annunciato, pensavo fosse. Senti, scusami, sì. Red, ma a proposito della questione dei vaccini di cui si è parlato in questi giorni, tu oltre a essere uno che non praticamente non mangi carne, ma perché pensi che sì, mangia non mangia carne. Ma chi non lo sai, non mangia no, carne. No, ma non è che so quello che fare. Ma è vegano, l'abbiamo avuto a ospite altre volte. Vegano? Vegano, sì, vegano. Perché, ma non allora neanche le scarpe ha di pelle allora. Hai le scarpe di pelle? Di plastica deve averle. Ma Parenzo, cioè, è uno che si ricorda le cose o l'Alzheimer non lo sta presente? Ma adesso non sono l'Alzheimer. Il biografo di Red Ronnie. No, ma è l'Alzheimer. Mi chiedi di Churchill, posso rispondere. No, il biografo non è di Red Ronnie. Devo difendere Red Ronnie in questo caso, eccessivo. Perché è stato ospite da noi e ha parlato che è vegano. Difendi chi ti pare. Ho chiesto semplicemente al signor Ronnie se ha anche il vegano deve andare fino in fondo. Quindi non può avere nulla in pelle, neanche le scarpe. Oh, deve avere di plastica se è vegano, altrimenti ce l'hai i piumini, per esempio. Il piumino lo usi? Sì, t'ho visto col piumino più volte. Usi dunque le piume? Assolutamente no. Ma come no, non c'hai i piumini? T'ho visto una volta. E le scarpe, però non ha risposto sulle scarpe. Ma le scarpe di pelle che c'entra? E come le scarpe di pelle non uccidi le mucche, per non uccidi gli animali per fare le scarpe di pelle? Dici? Che cazzo, senti, che ma dici? Perché, ma perché Parenzo cerchi la pagliuzza nell'occhio del vicino? Ah, le scarpe di pelle ce le hai, amico mio, allora? No. Dai, non mi dire che sei totalmente libero da ogni cosa. No. Allora, sono, non sono, non è che io sia un integralista islamico, perché ogni tanto, ad esempio, le uova le mangio, per esempio, capito? Però non mangio né latte né latticini, né carne né pesce. Vabbè. Però ti vesti ogni tanto. Ti piace così, il piumino te lo sarai messo, dai. Il piumino, con le piume d'oca te lo sarai messo. Le scarpe ogni tanto, delle scarpe fatte, come dice Parenzo, con le Ma le scarpe di pelle, di chi sono fatte? Di pelle di chi? Di cilipotti, secondo te, le scarpe? E allora di cosa sono fatte? Comunque, animali, per tornare a te non faccio neanche i vaccini. Manca i vaccini, fa Parenzo. Amico mio, ma senti, a Robinson Crusoe, se ti piace così vai a vivere in un'isola, amico mio, va benissimo. Adesso non è che però puoi fare propaganda. Senti, ma non ho capito, secondo te, allora, la colpa di queste morti, siccome adesso ti voglio far diventare scienziato, eccetera, la colpa di questi qua che sono morti, poveracci, è dei vaccini? Ma, tanto per cominciare, non esiste un vaccino che previene un'influenza, perché un vaccino si basa su un virus che esiste. Siccome i virus sono in continua mutazione, per fare un vaccino di un virus occorre minimo, occorrono 3-4 mesi. Lo so, perché io ho Cuba, un'amica che ha inventato il vaccino per la meningite dei bambini, avrebbe meritato il premio Nobel per la medicina, chiaramente non gliel'ha dato perché è cubana, e con lei abbiamo parlato molto a lungo dei vaccini, soprattutto capitale Cuba nel periodo in cui c'era il vaccino sull'aviaria. Quindi molte volte succede che tu trovi un virus e immediatamente hai in commercio il vaccino. E questo non è possibile, perché ci vuole un tempo per scoprire il virus. Io però voglio capire, tu secondo te sono nocivi i vaccini? Spiegami questa cosa qua, sono nocivi i vaccini, sì o no? Il fatto che non li abbia fatti e non li faccia, e non li abbia fatte le mie bimbe, nessuno si è mai ammalata, forse, non lo so. Il fatto che muoiono 5 persone, io ti dico, come mai però gridano tutti allo scandalo per la Stamina o per quell'altro professore, adesso non mi ricordo il nome, di Modena, che inventava un metodo alternativo di Bella, per... di Bella, la terapia, esatto. Di Bella, che è un'altra cosa rispetto a tutte queste cose di cui... Il professor Di Bella è uno scienziato. Vabbè, io non ho capito una cosa, secondo te i vaccini uccidono, sì o no? Uno deve anche dare una risposta chiara. Tu sei sempre nelle tue cose, sei sempre. Io non ho detto che io finora non ti potevo dire che uccidevano. Adesso mi sembra che abbiano ucciso 5 persone. Ma non hanno ucciso, c'è una commissione che deve verificare se c'è una relazione. Ma sei un uomo conosciuto, una persona che fa, come dire, in qualche modo, no, la gente quando ti ascolta, non puoi dire i vaccini uccidono così, dai. No, non dico che i vaccini uccidono, lo dice il Corriere della Sera in prima pagina, non lo dico io. Ho capito, non è questo, dai, cioè tu sei secondo te uccidono e fanno venire gravi malattie, lo devi dire, di come la pensi. No, non fanno venire gravi malattie, i vaccini sono una invenzione per venderti delle robe. Ti sto parlando del vaccino dell'influenza in questo momento. Le multinazionali, dici te, che ci speculano sopra, eccetera. Ma è un'industria, quella della medicina è un'industria, tant'è vero che ti danno consigli alimentari sbagliati, perché così le tue difese immunitarie si abbassano e ti ammali. Vabbè, un attimo solo che c'è il traffico, adesso torniamo. Ma il casello di Melegnano, il raccordo anulare, quando è che me lo mandate? Eccoci qui. Siamo in diretta dalla Fiera di Milano, agenti.it, i vaccini parliamo più tardi, perché tanto chi se ne frega, no? Ecco, vaccini, noi! Tanto Parenzo è a favore dei vaccini, io ma pure... Io sono stra a favore di tutti i tipi di medicine. Io mi vaccino, chi se ne frega, chi non si vuole vaccinare non si vaccina, però non è che... Che c'è? Non ne vuole No, non è così semplicistica. Ignazio La Russa, buonasera! Buonasera! Ciao, applauso ciao. Immediato da Istituto Luce. L'applauso, Istituto Luce, applauso! Ma non c'è il ritorno, non c'è il ritorno, adesso lo metto. Come non c'è il ritorno? Vabbè. Anche diventato lei, sa. Beh, tutto di cosa. Devi sapere che quando io dirigevo una radio, tu anche quello ha fatto. Eri un ragazzino quasi appena. Non ero forse mai concepito. Seconda radio libera a Milano, dopo Radio Popolare, onestamente, nacque Radio University, che era una radio di destra. Abbastanza di destra, molto di destra, molto di destra, diciamo, sì. Che io dirigevo, quindi facevo radio in epoca. Vabbè, ma non è che dobbiamo parlare. Volevo dire che si muore anche di aspirina. Bravo. Qualunque medicina può provocare in soggetti predisposti. Vabbè, e quindi io credo. Ma lei... Allora, devo dire però che io mi sono vaccinato, però i miei genitori erano degli antesignani del pericolo vaccino, non mi vaccinarono di vaiolo. Di vaiolo? Sì, beh, in quegli anni non lì mi vaccinarono. Che cosa successe? Che io andai in collegio in Svizzera, pure, dove a un certo punto andammo a sciare a Zermatt e c'era una piccola epidemia di vaiolo. Ci rivaccinarono tutti pensando che fossimo vaccinati. Io non ero mai stato vaccinato. Una febbre a 41 per 7 giorni che mi sono preso. Che lei non andava in Svizzera da giovane? Io studiavo a St. Gallen, un collegio svizzero, mania di grandezza dei miei genitori. Era, diciamo, anticipato De Benedetti, diciamo, e altri che sono andati in Svizzera. De Benedetti, quale dei De Benedetti? No, no, l'ingegnere. No, quello è più vecchio di me, Carlo, ci è andato prima. Senta, io sono amico del figlio di Marco. Ecco, perché è il marito di Paola Ferrari. Anche bravo, bravo. Allora, bravo. Io la cosa che voglio chiedere alla Russia è questa: ma lei si farebbe comandare politicamente, naturalmente, sì, dal signor Salvini? Cioè, se lo immagina Salvini che è l'astro nascente? Ma se non mi sono fatto comandare dal mio amico Silvio Berlusconi, comandare vuol dire obbedire a una cosa di cui non sei convinto. Si è tagliato pure il pizzetto per fare un piacere a Berlusconi? No, esattamente al contrario. Esattamente al contrario. No. Ho tagliato il pizzetto adesso da Fratelli d'Italia perché ho perso la scommessa, perché per 70.000 voti, nonostante Berlusconi mi chiedesse di tagliare la barba, io non l'ho mai tagliato. È vero. Quindi non mi sono mai fatto comandare. Se una cosa è condivisa, non è un problema di chi comanda. Quando comandare significa che tu obbedisci anche quando non sei convinto. No, non mi farei comandare. No, quello va bene, d'accordo. Però oggi è Salvini. Vuoi dire se in un partito accetterei di avere Salvini come capo del partito? Un partito, in una coalizione. In una coalizione. Adesso, leader però della coalizione, leader Salvini. Della, diciamo la verità, diciamola tutta. E se fosse scelto dalle primarie, dai cittadini, alzare le mani. Sì. Uno alza le mani. Se fosse frutto quindi di una libera scelta di tutti coloro che si ritrovano in quella coalizione, sì. Se fosse un'imposizione dall'alto, assolutamente no. Lei si è mai pentito di essere, diciamo, aver lasciato, tra virgolette, Berlusconi? No, semmai il problema è se ci siamo pentiti di essere andati in un partito unico. Cioè, siamo nati con Berlusconi, siamo nati alleati di Berlusconi con un partito che aveva una storia molto grande. Quindi errore sciogliere Alleanza Nazionale, quella storia. Così. Io credo che ci siano stati due errori. Uno, sciogliere Alleanza Nazionale, di cui sono compartecipe, perché l'ha deciso Fini, ma va detto a onor del vero che non ci fu, tranne un solo dirigente, che poi andò con Fini dopo, pensa, Menia si chiama, tutti gli altri fummo comunque con più o meno dubbi, ma tutti d'accordo. Ma lei adesso... Il secondo errore è stato quello di lasciare il Popolo della Libertà da parte di Fini, senza avere prima contribuito a rafforzarlo e a renderlo quello che sognavamo. Però scusi un attimo, ma adesso lei in un questo partito qua, Forza Italia, come lo considera? Perché mi dicono che, insomma, alla fine questo cerchio intorno alla Pascale sia decisivo, cioè si troverebbe a suo agio in un partito in cui questo c'è una cerchio signora, attorno alla Pascale, alla signora Pascale. Un cerchio, semmai, quello che leggo è... Nessuno dice che il cerchio attorno alla Pascale, casomai dicono che Berlusconi è un cerchio. Guarda, la storia dei cerchi magici, io non ci ho mai creduto. Però io so che molte cose vengono decise dalla signora Pascale, o comunque contribuisce. Guarda, cioè, lei si troverebbe a suo agio. Tu sei sposato? Io ero sposato, sì. Un pochino tua moglie almeno il menù lo decideva a casa. Molte cose. È normale che la Pascale decida. Voglio dire, è normale è normale che in una famiglia il ruolo della moglie contribuisca nelle valutazioni complete. Questo è interessante. Quando ti continuano a dire questo vicino di casa è un rompicoglione, tu lo vedi mai sto povero vicino di casa? E lo vede tua moglie. Alla fine ti convinci che il vicino di casa è un rompicoglione. E se l'ha detto mia moglie. Perché l'ha detto mia moglie. Quindi in assoluto un po' di coinvolgimento ci sarà. Io non credo che Berlusconi faccia qualcosa di cui non è convinto che porti un vantaggio. Però Berlusconi è passato dalla Russa a Luxuria, amico mio. Tu sei sicuro? A Renzi, è un po' dura. Io sono convinto che Berlusconi si sia convinto. Poi può darsi che la Pascale abbia contribuito a convincere che quella fosse una buona mossa per prendere più voti. Quindi c'è dietro una strategia precisa. Esattamente come gli animalisti della Brambilla. È bello essere animalisti, ma la scelta di addirittura dare un grande peso, perché dice quanti voti porta essere Berlusconi, questo l'ha sempre detto, che testa... non è convinto dei gay, se ne frega, alla fine vede i voti, vede una possibilità di prendere voti. Magari l'avesse fatto prima, se anziché le ragazze l'avessero accusato di essere un po' gay, oggi sarebbe presidente della Repubblica. Ci sentiamo dopo il giornale con la Russa di nuovo. la sera, non metti mano alle pistole, vero? Ti prego. Questo è il mitico Jacopino, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Jacopino, ti prego. Continuava a dire ti prego. È stato il mio addetto stampa un periodo. Jacopino. Certo. Addetto stampa di La Russa, Jacopino. Del gruppo, un bravissimo periodo. Hai visto che ha fatto la battaglia contro... Ma è un ottimo giornalista, Jacopino. Hai visto che ha fatto la battaglia contro la Durso? Vuole mettere ai gap, come si dice, ai ceppi la Durso. Lì la Durso è amica mia, quindi non mi farete dire nessuna anche parola nostra, contro. Anche nostra. Però lui deve svolgere il ruolo. Se tu prendi un carabiniere non potrà che parlarti male di chi ruba anche a fin di bene. Lui è il capo dei giornalisti. Che la Durso ruba no, a fin di bene. Non fa bene il mestiere. Lui è capo dei giornalisti, non può che difendere l'ordine dei giornalisti. Vabbè, ho capito, ma l'ha detto che la Durso non può intervistare i politici eccetera. Ha detto che non può fare il giornalismo secondo una norma. Dunque, che un po' c'ha ragione. Secondo me è sbagliata la norma. È sbagliato l'ordine, dici? Io personalmente ricordo, siccome è stato detto sbagliando, voi gliel'avete detto, no, no, non voi. Qualcuno ha detto che l'ordine è una cosa fatta durante il fascismo. Beh, sì, no, non è vero. È fatto negli anni 50, mi pare, o 60 addirittura. Vabbè, altre erano le corporazioni. Durante il fascismo Mussolini non era iscritto all'ordine dei giornalisti. Direttore dell'Avanti. Esisteva l'ordine. Non era necessario. Intanto siamo qui con Ignazio La Russa, che non è sparito dalla politica. Applauso per cortesia per La Russa, grazie. Applauso caloroso per La Russa. Il deputato di Fratelli d'Italia, ho visto che ha una presenza in Parlamento molto bassa, è sempre in missione. 83% faccio il presidente della giunta dell'autorizzazione a procedere. 83% di quello vuol dire che io vado in aula, siccome noi siamo 9 deputati, dobbiamo fare tutto 9 deputati. Non c'è mai nelle votazioni, praticamente, quasi mai. 9%. No, quando è importante ci sono, cioè quando il mio voto sposta ci sono, altrimenti non vai ci in commissione. Sono. E lavoro in giunta e per il partito. Senta, onorevole Russa, ma è vero che lei ha preso la difesa di Corona? Ci diceva prima. Lei è difensore. Questa è una indiscrezione che non so come tu l'abbia avuta. Allora cerchiamo di capirci. Lei per un periodo addirittura non ha più fatto l'avvocato perché ha detto voglio dedicarmi alla politica. No, non è che non ho fatto l'avvocato, mi sono autosospeso dall'ordine per correttezza nei 3 anni in cui ero ministro. Non me lo imponeva la legge, ma lo studio, io ho appena finito il ministero, ho teoricamente e concretamente ripreso nei limiti del tempo che ho ripreso a fare l'avvocato. Per esempio ho difeso Sallusti, come no? Però non mi dica che è stato assolto dal reato di evasione quando si diceva. Quindi dice che anche, un bravo avvocato, lei sostiene. No, io sono il migliore avvocato penalista che c'è oggi. Scherzo, dai, lasciami fare la battuta. Ma non è essere mica uno di quelli che dice che con la politica ci ha rimesso rispetto a quando faceva il No, io non l'ho mai detto, ma se vuoi ti faccio vedere la dichiarazione dei redditi e scoprirai che è così, anche se non troverai mai il fatto che io lo sbandieri, perché se l'ho fatto è perché ho deciso io che mi interessava più ci ha rimesso rispetto, se avesse continuato a fare l'avvocato avrebbe guadagnato. Beh, guarda, se vuoi ti mando le mie dichiarazioni di reddito prima e dopo aver fatto il ministro. Beh, se uno è un libero professionista affermato è chiaro che è così. No, ma è evidente, no? Però è un problema di scelta, c'è chi fa la politica per passione e c'è chi la fa per altri motivi. Il deputato, il ministro, eccetera, è bello. Dà anche un po' di visibilità. Magari no, non è tanto questo. No, non ho guadagnato di più. Magari adesso guadagnerà di più. Neanche perché continuo a fare politica e quindi quando ho poco tempo da dedicare. Faccio pochissimo. L'avvocato lo fa il mio studio, ma io faccio pochissimo personalmente l'avvocato, e soprattutto per chi come me è un penalista è tutto intuiti persone. La politica mi ha impoverito, l'ha un po' impoverito. No, diciamo. Impoverito io non l'ho detto, tu mi hai detto se ho guadagnato quanto meno. Di meno, 50% di meno, si può dire. Forse anche di più. Addirittura. Anche di più. 70%. Beh, vabbè, io avevo una dichiarazione di redditi superiore a 500.000 euro e adesso c'ho solo praticamente quello, no, meno, non so quanto. Il mio reddito è quello parlamentare, poco di più, perché poi peraltro mantenere uno studio è molto costoso. Io ho uno studio con tanti avvocati, gli avvocati li paghi anche quando diminuiscono le pratiche, se non è uno studio associato, normale, ma non me ne lamento, è una scelta che ho fatto di cuore. Magari dopo arriveranno vantaggi. Speriamo. Dopo arriveranno ti pregherei di farmi un po' di pubblicità, clienti. Però per esempio Corona si è affidato a lei. Beh, mi sembra è fantastico. Non da solo, si rimetterà la toga. Lui è difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, è stato difeso. Ma merita la grazia secondo lei? Secondo me la possibilità, anche attraverso un provvedimento, di poter finire di scontare la pena in condizioni migliori, sì. Sì, ma grazie. Io non credo che si debba e si possa, te lo anticipo, chiedere una grazia sicché sempliciter per Corona, nemmeno parziale, insomma, però, come ha chiesto qualcuno. Però chiedere, ma pensa come Travaglio. Chiedere il, e c'è il modo. Non voglio anticiparlo io perché ci sono altri colleghi insieme a me, ma chiedere un provvedimento che consenta a Corona di magari scontare l'enorme pena che ha avuto, severa, ma figlia del codice, ha avuto praticamente quasi 11 anni, e di più, poi di meno per l'esecuzione, di scontarle come consentito ad altri, in altre condizioni diverse dal carcere, sì, e questo si ma può fare. È stato perseguitato, secondo lei, è stato un po' perseguitato. No, non è un problema di perseguitato. Nei suoi confronti non c'è stata sicuramente nulla di diverso della severità. Della severità. Però lei è uno dei paladini della severità in queste cose qua, no? Sì, però bisogna di fatti. Cioè, perché è diverso da altri imputati? Io quello mi fa incazzare. Perché è diverso? C'è una mobilitazione su Corona quando non c'è su poveri Cristi. Perché ha commesso un sacco di reati. Perché si hai perfettamente ragione. Difatti, nessun povero Cristo però ha 11 anni per reati che comunque. Vuole che le faccia l'elenco, lei lo conosce. No, non il titolo, sembra un manuale di diritto penale. Però sono esempio questa di Trezeguet, che è quella su cui potrebbe intervenire parzialmente la grazia. Sì, sì. È una estorsione perché gli ha detto: o mi compri le fotografie, oppure le vendo ai giornali. Dice Corona, io i giornali li vendevo, per me venderla a lui, venderla. Vabbè, insomma, non è proprio magari uguale. Però a quel punto fai finire, gli hanno dato, ed era giusto che glielo dessero tecnicamente, ma moralmente si può discutere, anche l'aggravante del numero, perché siccome non aveva la patente era andato a questo appuntamento con l'autista. Per cui che era quello che prima era andato a chiedere anche i soldi a Trezeguet, comunque non mi risulta. Adesso a me non piace fare i processi in televisione. Per cui mi hai chiesto sta cosa e non ero preparato perché non sapevo che tu la sapessi. Io ho accettato di esaminare insieme all'avvocato Ivano Chiesa, ad altri avvocati, fra l'altro un altro degli altri avvocati che è stato nel collegio di difesa. Ma lo ha incontrato recentemente Corona? Sì, l'ha visto? Sì, certo. Come sta fisicamente? È provato, cioè, però qualcuno dice che c'è il pericolo che si ammazzi, diciamolo. Qualcuno ce l'ha detto anche qui da noi che io dico che è dire una rischio. Cosa del genere di un cliente non la dirò mai perché potrebbe significare fargli venire l'idea, quindi no, per me non c'è nessun pericolo che si ammazzi. Non c'è nessun pericolo che si uccida, però è molto provato, come sono come provati tutti. Come tutti quelli che stanno in carcere, non tutti, come sarebbe provato un rom in carcere. Io su queste cose di Corona meno, perché un rom 11 anni raramente se non uccide qualcuno glieli ho visti dare perché c'è nei confronti dei rom un giustificazionismo, che cosa no c'è? I rom non fanno estorsioni, i rom rubano tutto il rame che trovano sotto mano, ma sono geneticamente ladri secondo lei? Geneticamente no, perché hanno il razzismo, hanno il DNA del ladro. Culturalmente ladri sì, così come diciamo che culturalmente i francesi amano l'amore, così come diciamo che culturalmente gli italiani amano la musica, i rom culturalmente sono ladri, sì, secondo me. Ma è come se dicessero che i terroristi sono tutti mafiosi, no, culturalmente vuol dire che tra tanti, come noi diciamo che siamo per la musica, ma io sono stonato, ci possono essere rom assolutamente onesti, ma un modello di vita dei rom girovaghi, di quelli come si chiamano, nomadi. È quello di non considerare la proprietà come una cosa intangibile, diciamo così. Senta, se arrivasse nel suo studio se arrivano a casa tua e per caso hai dimenticato la porta aperta, stai tranquillo che sarà culturalmente o no, ma se passa un siciliano magari c'è la speranza che non entri, se c'è un rom le probabilità che entri sono molto più alte. Però scusi, se uno arrivasse del suo studio così, bussa fantastici. Buonasera, la Russa, sono un avvocato rom. Lei lo prenderebbe nel suo studio se diventasse avvocato rom? Se fosse una persona mai, per non bene. Lo prenderebbe. E la casa la prenderebbe un rom, lei? La casa un rom. Ma se la Russia fa, vuole mangiare la Russia? No, ma gli chiedo scusi che mestiere fa. Sì. E lui dice: mi faccio finta di avere una mano in meno e giro su una carrozzella perché dentro ci metto i piedi, così chiedo l'elemosina, non lo prendo. Sì. Se mi fa vedere una laurea con un buon risultato a un'università, anche se è Roma, lo posso valutare. Vabbè, risposta un po' paraculo. No, è vero, sai perché? E sei gay? Ma sei gay, assolutamente sì. Subito, anzi, sei gay, assolutamente sì. Ma esiste una lobby gay? Esiste, secondo me? Ma certo che esiste. Cioè, nella vicenda di Barilla, per esempio, è una cosa clamorosa. Ultimamente è stato premiato. È stato premiato da tutte le cose che esiste. La lobby gay esiste sicuramente, l'ha detto anche. L'ha detto anche del Vaticano, figurati se non esiste. Però i gay, attenzione, dov'è l'equivoco? Io adoro i gay. Dov'è l'equivoco? Anche io molti. Guarda, ma te lo dico. Mi pure provare una volta. No, quello no, grazie. No, anche io, no, grazie. Ognuno ha i suoi gusti, perché devi provare. Io già sono ebreo, quindi io sono a posto. Basta. Tu lo sai. Tu lo sai che io, tra me e il 99% degli altri politici milanesi, chi è più amico della comunità ebraica di lo Milano? Lo so, è la Russa. È vero o no? Lo so, è vero. E allora, non le balle. Ragazzi, domanda e risposta veloce. Esiste una lobby gay che influenza la politica italiana, la politica che influenza la comunicazione? Esiste una lobby gay che riesca a influenzare, non lo so, ma esiste sicuramente. Per cui la cosa che secondo me si dice poco, però che si dice? È seria sta cosa, 10 secondi me li devi dare. Dov'è il problema? Il problema è sulla adozione. Perché il problema è sull'adozione? Perché, io adoro l'adozione gay. Ognuno è. Mi spiace che tu abbia avuto un papà e una mamma, perché visto che l'adoravi era bene che tu avessi due papà o due mamme. E perché? Vabbè, ma io dico sarebbe, lo dico per te, solo che lo puoi dire adesso, quando eri piccolo non potevi scegliere, e allora io vorrei che nessuno scegliesse per un bambino. E fin tanto che non si, a 18 anni si può avere dei genitori dello stesso sesso, quando sei in grado di scegliere. Prima facciamo scegliere alla Costituzione. Ci sono dei bambini che crescono tranquillamente. Perché? Ti spiego perché. Essere, adottare o sposarsi, equiparare al matrimonio è garantito dalla Costituzione. La Costituzione parla del matrimonio. Perché ne parla? Perché non parla dell'amicizia? Perché non parla fatta nel 48? Perché non parla? Lei la vuole fammi cambiare finire. In tanti punti in questo non si può cambiare. Si potrebbe... Ti spiego perché. Non si può cambiare perché non parla dell'amicizia, non parla dei compagni parla di scuola. Parla del matrimonio, te credo, eravamo nel 48. Ma non è che il matrimonio è morto dopo il 48, c'è ancora. Sta messo non male per sì, sta messo male come lo sa meglio, resto, lo sa come meglio di me. Non parla perché la regola è che lo Stato parla del matrimonio, non perché è bello, perché è cattolico. Perché assegna al matrimonio il compito di educare i figli. Cosa che non assegna ai compagni di scuola. I figli possono essere educati dai single, due persone, da tre persone, da quattro, da cinque. Non sono più in figli. Molti casi stai dicendo famiglie, che possono essere educati. Famiglia e difatti, cose, E difatti c'è la scuola che ha una sua valenza. Ma la famiglia è importante per lo Stato. Poi possiamo fare una famiglia, ma non possiamo pretendere che lo Stato ci dia alcuna garanzia. Perché non abbiamo il compito, anche gli amici. Ma se io le voglio bene, ipotesi, no, pubblicità lo puoi fare, ma non possiamo avere figli. Perché non possiamo avere figli? E chi gliel'ha detto? La adottiamo. Proviamo. Un piccolo adottiamo. Non è nostro, mi spiace. Pubblicità, grazie. Ma guardate che lo fanno anche in Germania. E adesso la borsa. Buonasera, allora siete due facce di merda, ovviamente. Buonasera, io vorrei parlare di puttane. Vabbè, adesso proprio di puttane no. L'ascoltatore però dobbiamo salutare la Russa, perché sennò facciamo la Russa. No, ma le due cose spero non siano messe insieme. No, assolutamente, però scusa, onorevole Russa, lei è a favore della legalizzazione della prostituzione? Perché qui pure il signor Passera, non a caso, secondo me. Certo, il nome nominis. Esatto, nome omen. Si è detto a favore. Lei è a favore della legalizzazione della prostituzione? Spero di sì o no. Dipende cosa vuol dire legalizzazione. Quando lei sarà sindaco di Milano, facciamo un bel bordello qua. Perché lei le piacerebbe fare il sindaco di Milano? Non ci ho mai pensato. Però... Parliamone. Bello, però. Non possiamo fare la Russa show. Vabbè, parliamo la prossima volta. La prossima volta parleremo di puttane. Va bene, arrivederci. Ciao. La legalizzazione realizzazione la facciamo la prossima volta, la prossima volta. Vabbè, dai, arrivederci, grazie. Arrivederci la Russa. Ascoltatori, ragazzi, ascoltatori. Dino Grosseto, Dino. Dino, ciao, buonasera. Allora, vai, dimmi. Se mi consentite, allora, non puttane ma peripatetiche, dai. Buttiamola sul... In che senso termine... peripatetiche? Non ho capito. Le peripatetiche, che la peripatetica. Ah, perché le peripatetiche... Ah sì, io sono ignorante, le peripatetiche, che sono? Le prosti, quelle, ah, che girano, quelle che girano, quelle sono che girano. Le metto... Lei e la Russa siete coltissimi, pure la Russa lo sapeva, io non sapevo una massa, le peripatetiche. Ma no, peripatetiche, era una concezione filosofica, gli alunni di Socrate, tu non hai fatto il liceo classico. No, l'ho fatto, ma non mi ricordo. L'hai fatto molto male, io ho fatto il liceo classico. Bravo, il metodo peripatetico era quel metodo che i filosofi socratici... Sì, non mi ricordo più nulla, l'ho cancellato. Ma tutto. Perché no, ti occupi solo di figa ormai, cioè, non è che... capisco, vabbè, capito, è un detta, scusate, quella, in modo brutale. Anche quella gira, ma insomma il metodo peripatetico era quello che i filosofi socratici utilizzavano, perché giravano e parlavano e decantavano la filosofia, sì, e giravano con i loro discepoli in piedi, il periplo. Ma le prostitute non sono peripatetiche, quindi non sono mai state chiamate le peripatetiche. Che è colta, ma che è intervenuto con un linguaggio aulico, usa il termine peripatetico. Cosa urla la Russa lì fuori? Vabbè, Dino, che cosa, qual è il punto? Qual è il allora, punto? I punti secondo me erano molto semplicemente, erano due. Uno brevissimo, statistico, che il dottor Parenzo bisogna che capisca che non è valida quella proporzione 80-20, è l'incontrario, cioè l'80 lo fanno perché lo vogliono, 20 poverette perché sono costrette. Oh, altra cosa fondamentale. Bravo, bravo, altra cosa bravo, fondamentale. Bravo. Altra non cosa, so, lei lavora all'Istat evidentemente, ufficio statistica. No, ha ragione questo ascoltatore. Allora non dica basta, sciocchezze, basta, parli con qualsiasi funzionario di polizia e ma non dice, si non faccia dire, un, no, bel, no, no, si faccia un bel nodo lì e si guardi un filmino a casa. Lei va a puttane? Allora, mi scusi, lei va a puttane o no? Lei va a puttane? No, non sono mai andato a puttane, ma per un problema tecnico, non mi si rizza. Cioè, quando le guardo in faccia non... Fermi tutti. Non riesco ad essere eccitato. Chiedo scusa, lei è sempre la radio della Confindustria. No, io vorrei ricordare che alle 19:41 il nostro editore, il suo Squiz, è in macchina e dice: oh, vediamo un po' che cosa è, gli aggiornamenti dai mercati oppure le nuove. E sente questo ascoltatore che dice: non mi si tizza. Forse c'è un errore, ho sbagliato frequenza. Dice: no, cazzo, veramente questa frequenza qui era di 24. Prima c'era Barisoni e ora c'è questo qui. Allora io non ho capito, però adesso. Però non è che lei, favela, quello che lei pensa delle prostitute, no, però scusi, quello che lei pensa delle prostitute, prego, abbiamo capito, lei è a favore della legalizzazione, questo. Pensa che Parenza abbia detto una stupidaggine, sono d'accordo con lei. La cosa più interessante è capire perché non le si rizza. Questa è la cosa più interessante. È molto semplice, ma vorrei andare al secondo punto, che era quello che mi interessava di più. Non mi si rizza perché la prostituta, la peripatetica, la puttana, chiamiamola come volete, ha degli occhi completamente spenti. E a me servono degli occhi, punto, tutto qua, nessun problema. No, però allora lei sta dicendo che non le si rizza, cioè non ti si rizza sì, con una puttana, sì, non in generale. No, non mi si rizza con una puttana, certo. Ah, grazie, no, avevamo capito che non mi si rizza, è utile la conversazione, lei va a puttane, no, perché non mi si rizza, ho capito. No, è giusto. Guardi che conosco qualcuno, però, qualche mia amica che potrebbe sicuramente farle, come dire, no, farle l'operazione, cioè l'operazione rizzamento. Le posso assicurare, Bruciani, che da quel punto di vista sognusano, tranquillo, non c'è problema. No, però voglio dire, se lei volesse provare l'ebbrezza di una prostituta che le fa rizzare il pisello, io ho persone adatte allo scopo, sì, insomma, ci se credo, vuole, no? Ci credo, ci lei credo. È Grosseto, adesso qualcuno posso rimediare da quelle parti. No, ma sicuramente, guardi, le garantisco che ho girato un po' il mondo, ma anche le regioni d'Italia, e sicuramente. Cioè, se lei non vede la luce negli occhi, non riesco. Per me il denaro serve per altre cose, non serve per andare a scopare, fortunatamente. Evidentemente, perché non mi serve a me, non mi è mai servito, non lo so. Comunque è un problema secondario. Vabbè, allora... Mi faccia parlare della seconda cosa, che la trovo più importante. È un problema molto semplice, non capisco per questo motivo. Quando si parla di prostituzione non si parla anche delle donne, perché tutti vogliono tirar fuori le donne per difendere la donna in tanti contesti, però poi in buona sostanza quando chiedono la parità cosiddetta per le puttane, io non capisco per quale motivo mia sorella e mia madre debbono essere identiche davanti allo Stato tal quale una puttana. Non lo trovo logico. Diamogli vabbè, tutto questo quello siamo che d'accordo. Vogliamo. Grazie Dino, Paolo da Siena, Paolo. Paolo, dimmi, dai. Buonasera. Dimmi, vorrei Paolo. Soltanto dire una cosa molto semplice. È un invito che fo. Per esempio prima c'era la Russa, ci sono stati Sallusti, altre persone che io stimo. Dico, parlare con voi che adoperate questo modo di parlare, che avete queste idee così invalidanti, questo modo di idee invalidanti, abbiamo idee invalidanti, questo è interessante. Certo. Questo modo allora, di vedere la famiglia, perché qual è, lei che modo ha di vedere la famiglia? Due uomini, due donne, siete delle sì, persone negative. Mi piacciono le famiglie in cui ci sono due uomini, due donne, mi piacciono le famiglie, punto. Le persone per bene la smettessero di parlare con voi, perché voi siete due guardi, che ci siamo e dovreste ci siamo essere eliminati. No, ha ragione su questo poi. Come ha ragione su questo? Penso che abbia ragione. Come ha ragione? Siamo persone negative, ha ragione. Ma come siamo persone negative? No, però io voglio sentire questo. Tu molto negativa, molto depravata. Lei dice che le persone per bene non dovrebbero essere intervistate da noi, sì. Giusto? O se n'è andato questo qua? Paolo se n'è andato, vabbè. Andiamo in provincia di Pavia da Giuseppe, ecco le persone per bene che arrivano. Beh. Vai Giuseppe, vai, dimmi. Mi dispiace che sia andato via la russa, perché volevo rispondere alla sua analisi sulla cultura rom. Diciamo che per parte di padre vengo da una famiglia di contadini e i rom, diciamo nella seconda metà del secolo scorso, fino alla seconda metà del secolo scorso, nel loro girovagare nelle campagne facevano i fabbri praticamente, aggiustavano gli attrezzi agricoli. Vabbè, ma la russa ha detto che sono culturalmente ladri, questo ha detto. E invece sono non è culturalmente così. Ladri. E vabbè, e sarà così secondo lei, secondo la russa sono culturalmente ladri. Ha fatto anche un esempio, se uno lascia la porta di casa aperta e passa un siciliano, com'era l'esempio? Un esempio molto calzante. Parenzo, tu non sei d'accordo, ma non hai avuto il coraggio di dirgli che è razzista. Ma come l'ho? No, era qua, avresti dovuto dirgli razzista come fai di solito con un leghista. Ma ci ho scherzato, e hai scherzato. Ignazione, la lo segniamo tra le tue contraddizioni. Aspetta un attimo, fermo, decido io quando parli. Allora, scusami, adesso uso un po' il pugno di ferro. Però la russa ha detto, c'è una porta aperta, entra, passa un siciliano, diciamo può anche non fermarsi a rubare. Passa un rom, sei certo di rubare, l'ha detta grossa, non c'è dubbio. Sì. Però, quello è, diciamo che non ha tutti i torti. Se un rom vede una porta aperta, entra e quasi sempre ruba, questa è la realtà. Poi, siccome l'ha detto la russa, farà un po' di scalpore. Vabbè, però che mi dovevi dire? Io stavo parlando di un'altra cosa, io stavo parlando di come si è potuti arrivare a questo, fermo restando che la delinquenza va comunque perseguita e punita. Io vabbè, ma come si è arrivato a questo? Che vuol dire come si è arrivati a questo? Non ho capito. Perché se si parla di cultura rom non si può dimenticare da dove si viene, perché se si parla di cultura rom non valgono... Vabbè, secondo lei non sono ladri, questo è il punto, non sono ladri. Ah, io non sto dicendo questo, sto dicendo che... Culturalmente ladri, cioè la russa è stata... ha detto una frase razzista la russa, che ha fatto? Ma una frase stupida più che altro, cioè, stupida, va bene, grazie. Siamo ad alti livelli qua, tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente, nulla, zero. Infatti a noi non ce ne frega niente, che ci frega, i tempi duri dicono tempi duri, ma in realtà non so tempi duri per noi, sì, tempi duri. Vittorio Feltri, buonasera. Benvenuto, buonasera. Buonasera, eccoci qui, acclamato. Applauso di regime, ancora per cortesia, ancora un po' applauso, grazie, quanto mi piace questo. Allora, caro Feltri, ma che succede con centrodestra, Berlusconi, tutti in rivolta, Fitto, come lo giudichi, il signor Fitto? Fitto. E lo so Fitto. Che non è molto. Ma cosa gli interessa di Fitto a Feltri adesso? No? Come prima domanda. Ho fatto una domanda ridicola. Cioè, non ho un pensiero su Fitto. Fitto. Non lo so. Ma secondo te uno in macchina, Luciani, fammi incazzare, uno in macchina alle 19.47 con una giornata di lavoro in cui si è rotto le balle, sì, fino a quando uno dice scusi il ragionamento su cosa ha detto Fitto. Sì, ma come Fitto? Ogni tanto mi prendi di fare delle domande un po' più serie, dai, su. No. Cioè, tanto... Beh, ma allora cosa c'entra Fitto con la domanda seria? Ma tu dici che è una contraddizione in termini. Ma che vuole fare? Cioè, la fronda in Forza Italia. Ferrara ha detto che è un leader così di bisceglie. Beh, il fatto che sia di Bisceglie non significa niente, potrebbe essere anche di Trento e non cambierebbe nulla. Il problema è che Fitto vuole prendere il posto di Berlusconi, ma non ha il coraggio di dirglielo e soprattutto non ha il coraggio di agire in modo che quella sua velleità diventi un programma realizzabile. Vabbè, ma che velleità è? È una velleità quella di voler prendere il posto da Berlusconi chiamandosi Fitto e avendo alle spalle le opere di Fitto che nessuno conosce. Quali sono le opere di Fitto? C'ha dei voti in Puglia. Beh, ha fatto il presidente della Puglia. I voti sono più che necessari, sono indispensabili, ma poi bisogna sapere cosa farne. E non mi sembra che Fitto abbia le idee chiare, anzi mi sembra che non abbia idee, La Puglia almeno non le ha manifestate. È stato abbattuto da Vendola anche in Puglia una volta. Questo non depone a favore di Fitto, di Fitto. Sì, sì. Tu dici dal punto di vista elettorale non ha proprio tutta questa... Cioè, no, non mi pare che abbia neanche le capacità per imporsi. Voglio dire, il nostro Renzi, come ormai lo chiamano tutti, quando si è trattato di affrontare Bersani lo ha fatto a muso duro. La prima volta ha preso dei cazzotti, la seconda volta ha vinto, però ha combattuto, si è dichiarato, non ha fatto usato l'ipocrisia tipica dei vecchi democristiani non i migliori, e quindi se non ha la capacità di organizzarsi per prendere il posto del capo, gli conviene rimanere nel mucchio selvaggio, dove peraltro è in buona compagnia. Che è il mucchio selvaggio di dei forzi italiani, dei cortigiani di Arcore, dei cortigiani. Che adesso non frequentano più Arcore, forse le cose andranno, può darsi che chi è che non frequenta più Arcore? C'è il mucchio selvaggio. Ah, il mucchio selvaggio. Poi nomi e cognomi. No, ma quelli che non frequentano più Arcore, perché c'è il cerchio magico soprattutto, cerchio che controlla magico, tutto. Sì, che è un cerchietto poi. C'è però regola il cerchietto anche femminile, soprattutto un cerchietto femminile. Signora Pascale, tua amica peraltro. Sì, ma mia amica è una persona, cioè meglio lei di tutti quelli di Forza Italia, secondo me. Dal punto di vista estetico non avrei alcun dubbio. Vabbè, quello sì, certo, quello sa va san dir, come l'estetica dire. È ai confini dell'etica, sì, non c'è dubbio. Cioè, dice, comunque dal punto di vista anche di testa, Verdini, no? O la Pascale, uno, vabbè, questo no. Sì, però dal punto di vista di testa proprio vicini. Non ti piace la Pascale? Ma no, appunto, dico, la Pascale è carina, ragazza carina, interessante, molto molto carina, interessante. No, ma voglio dire, è meglio lei dal punto di vista anche politico, di idee, di molti di quelli di Forza Italia. Credo di sì, credo. C'è una spanna sopra tutti i cortigiani colonnelli. Cioè, a me piace la Pascale, mi piacciono tutte le belle donne, ma non mi ricordo perché. Come non ti ricordi? Cioè, a prescindere. Ho perso. Sai che ha detto la Daddario? La Daddario ha detto al processo delle cose straordinarie. La cosa più interessante di questi giorni sono la deposizione della Daddario. Che Berlusconi a un certo punto gli ha detto: ma sai che a me piace, secondo la Daddario, a me piace quando vedere due donne che fanno sesso insieme. Beh, non è proprio questa cosa nuova che ad alcuni è una uomini, delle cose... praticamente tutti. Piacerebbe assistere a uno spettacolino di questo tipo. Spettacolino chi lesbico, non ha ipocrisia, diciamo. può anche ammetterlo tranquillamente. Però voglio dire, Dario ha detto: a parte quelli di Comunione e Liberazione, ma quelli non piacciono. Lo fanno senza dirlo. Dici? No, quelli di CL lo fanno, cioè fanno orge, cos'è, senza dirlo. Ma è evidente. Ma è evidente, come è evidente? Beh, adesso voglio dire. Basta guardare in faccia, capisci? Vabbè, non è che tutti quelli di CL, ci sarà pure qualcuno monogamo. Si va per categorie. La monogamia è uno scherzo, lo sai, la monogamia. Non si parla mai personalmente di un soggetto. La monogamia è contro natura, poi, no? Cioè, assolutamente sì. Diciamo che è proprio la gamia che non funziona. No, in generale l'essere monogami è un qualcosa che non può, che stride anche con, non solo con gli istinti, ma anche con la logica. Con la logica è fatale che una persona dopo qualche anno non susciti più, diciamo così, desideri, impulsi. Prego. Tu dici anno dopo qualche anno. Io come ho già detto prima, non ricordo bene com'è la faccenda, perché sono talmente vecchio che ormai non pratico più. L'altro giorno Pupo qui da noi ha detto che vive con due donne ed è praticamente, anche se non si può chiamare bigamia, vive tranquillamente da 20 anni con due donne, una è la moglie e l'altra è l'amante a casa. Ma guarda, c'è un esempio anche del mondo del giornalismo. Io faccio fatica illustre. Con una, figurati con due. Con due a casa insieme. Pensa che io ne ho una da 47 anni. Ma come fai una da 47 anni? Una la regge. 47 anni? 47 anni di matrimonio. Di matrimonio, una cosa pazzesca, dai, su. Cioè, io sono nato sposato. Sei nato proprio direttamente sposato? Subito, ho fatto. Ma secondo te le notti descritte dalla Daddario di Berlusconi sono vere? Cioè tutti quei racconti che ha fatto di donne nude, 20 donne... Cioè 20 se donne... io fossi alla ricerca della verità non mi rivolgerei certo alla Daddario. Questo d'accordo, però uno ha fatto la testimonianza in tribunale, sotto giuramento, ha detto che erano delle serate pazzesche, che lei era l'unica... Gli spergiuri non è che manchi. No, lei è l'unica vestita mentre erano tutte nude, ma questa cosa secondo me... La Daddario vestita non riesco neanche a immaginare. In casa di Berlusconi. Però questa cosa non è disdicevole per Berlusconi, non sarebbe disdicevole, cioè. Ma io non ho certo nulla da rimproverare a Berlusconi sotto questo profilo, che il consiglio che gli avrei dato è di non ostentare le sue debolezze, non è il caso, diciamo, uno può fare tutto quello che vuole senza fare il ganassa, come si dice a Milano, cioè uno stile Mitterrand sarebbe stato senza meglio. Fare l'esibizionista, anche perché il sogno di Berlusconi sarebbe quello di andare a San Siro in campo, sì, con le tribune ovviamente piene, sì, 70.000 persone, fare le sue cosine con le ragazze in campo e con tutto il pubblico che fa la ola. Lui sogna questo. Lui sogna San Siro pieno di tifosi. Perché gli piace farsi vedere e dire io sono ricco, io sono bello, scopo sono anche forte, benissimo. Queste cose qui. Quello dico io, posso dire. Quel verbo lì. Ma è trombo, è trombare. Trombare, più chic. Sono più chic, sì. Cioè il suo sogno è quello di stare in un San Siro pieno con 20 ragazti in notturna, no, in notturna. Perché, perché ci sono le luci, dentro una, fuori l'altra, davanti e un'altra, il pubblico entusiasta, entra il numero 4, questo è il suo sogno, questo è Berlusconi. Però questa è la parte bella di Berlusconi, non è la parte bella, ma ripeto, l'ostentazione e l'esibizione. Quando uno occupa un posto importante, ricopre un ruolo, dovrebbe essere evitato. Vabbè, abbiamo la pubblicità, poi ancora Vittorio Feltri, ascoltatori, rimanete qui, 800 24 00 24, manco dato il numero stasera, ma siamo in diretta da agenti.it alla Fiera di Milano, ciao. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Ti prego. Sì, pronto, le caguli. Oh, ragazzi, oggi è una puntata speciale qui dalla Fiera di Milano. Spero che mi sentite bene. Facciamo subito un tipi da zanzara con Giovanni da Campobasso. Tipi da zanzara, vai, regia. Tipi da zanzara. Giovanni da Campobasso, dai, fammi sentire Giovanni da Campobasso. Sì, pronto, le caguli. Sì, eccolo qua. Eccolo qui, le caguli, ecco. Di cosa? Le caguli dei padroni. Noi, le caguli dei padroni, sì, certo. Dei poteri forti. Io mi auguro con tutto il cuore, sì, specialmente a te, ma tutte e due, non è uno più uno meno. No, certo, tutte e due. Un buon cabobo. Ah, dobbiamo trovare un buon cabobo. Ecco il pacifista. Devi ficcare il piccone in bocca. Sì, il piccone in bocca, bene. Eccolo qua. Così non parlate più. Se poi morite. Beh sì, certo, crepiamo. Sì. Cioè, la cosa può capitare, signor con un piccone in faccia. No, non è che io ho detto può capitare, non è che deve capitare. No, può capitare. Se capita lei è contento, insomma, no? Io sono contento perché tu hai difeso quello della morte naturale del Trentino Alto Adige. Ma non è che l'ho difeso, è che l'ho attaccato. Sì, l'hai difeso perché dicevi con quello che era contento, che era un analista. Sì. E lui era contento perché è morto un cacciatore. Ma è certo che lo difendevo, non è che difendevo lui. Perché non hai difeso anche quello di Napoli di 15 anni? E perché non ho difeso quello di Napoli di 15 anni? Perché non ho difeso quello di Napoli 15 anni? Perché, ma tu che fai di mestiere, Giovanni? Ma che fai? Che radioascoltatore di Radio 24, di due imbecilli come vuoi, che chi difende home e chi difende due pesi e due misure. Ma scusami, Giovanni. Ma tanto di Parenzi, io home se mi deve portare a casa sua, anzi andare a fare in culo da questo paese. Come dice, scusi, signor Giovanni? Andate via da questo paese. Sì, lei non sta usando un linguaggio da famiglia cristiana, signor Giovanni. Dove? Da Campobasso. Questo non c'è dubbio. Chiedo scusa, signor Giovanni da Campobasso, gentile signor Giovanni, non è irenico. Scusami, ma lei ce l'ha una vita, Giovanni? Ce l'ha ma lei una ha vita? Una vita, lei degli affetti, una vita, ce l'ha una vita? Una famiglia. Ma che discorso è questo qua? Non si è capito perché ha chiamato. Comunque. Ma tu qua quando a te la cosa non ti conviene, dici che non hai capito. Vabbè, Giovanni, io ti abbraccio fortissimo. Fangulo la croce, ma ti abbraccio, posso dare un bacio in bocca? No, Giovanni, un bacio in bocca non lo vuole, dai. Allora abbiamo con noi Vittorio Feltri, eccoci qui. Allora Vittorio, io non ho capito una cosa, ma secondo te Berlusconi, tutti quanti dicono che è ormai morto politicamente, vero o no? diciamo che non sta benissimo. Non sta benissimo. Non sta benissimo. Manca solo. Gli auguriamo di rimettersi in piedi, anche per simpatia umana, ma però le probabilità che torni a farci essere ottimisti credo siano manca solo, pochissime. Manca il certificato, sì. Manca il certificato. Anche la data. Ah, manca solo il certificato e la data. La data. Anche Feltri si è convertito al salvinismo ormai, oh no, la nuova oh no. Tendenza, il salvinismo. Io sono ateo in tutto, anche in politica. Ma non ho capito, però Salvini ti piace? Ti piace molto. Salvini è un fenomeno politico interessante, l'ho seguito per sì. Anche dovere professionale e quindi però questo karma però non basta per dire che io sono suo fidanzato. No, no, suo fidanzato come lui alludeva. No, perché a te no, i gay no, piacciono diciamo quando si devono sposare tra di loro. Sì, sì, molto. Però poi a distanza non andresti mai con un uomo, no? Difficile, molto difficile. Boh. Mai dire mai. Mai dire no, mai. No, come mai dire e questa mai. È una giusta risposta. Anch'io direi mai dire mai. No, che io dico mai perché ho altri gusti. Ma che ne sai? Anch'io ho altri gusti, no. Momentaneamente. Sono certo. Si possono cambiare i gusti come le opinioni politiche. È così. Ma sì, sì, ma i gusti poi sessuali si possono cambiare come le opinioni politiche. A me, fino alla settimana scorsa, non piaceva il pesce e non lo mangiavo. In questi giorni sono stato obbligato, comincia a piacermi. Ah, quindi lo stesso può valere, dici direttore? Ma sì, ma questo è una cosa interessante. Cioè, se la carne è debole, figurati il pesce. No, però il punto è anche questo. A me hanno detto che quando uno è che se lo prova la prima una volta. Ma che cioè, cosa? Il pesce? No, cioè l'organo sessuale maschile. È sempre all'arte della Confindustria, posso dirlo a chi ci ascolta. Se uno lo prova, poi non lo lascia più. Diciamo che per ora non ho questa inclinazione. Però continuo sulla mia strada tradizionale, che peraltro ho perso, come dicevo prima. Ma no, ma non è vero, dai, su. Ma no, non è vero. No. Non sono più in lizza. Ma non è vero. Ha ragione, basta. Solo tu ancora sei fissato con Strava. È meglio leggersi un libro, ascoltare della buona ma musica. Allora vai in Albania con gli altri, vai a fare la televisione in Albania, allora vai in Albania a fare la televisione, dai, su, perché non sei andato in Albania, dai? Beh, perché diciamo che ti hanno offerto di andare in Albania, non beh, ci credo, insomma, questo non si dice, non si può dire, no, poi non si può rivelare, dai, non no, si può rivelare, no, sì, non esiste, allora, non esiste. Io vi voglio dire, torniamo a Salvini, allora Salvini, no, Salvini, e la prossima volta che vai a votare voterai Salvini, diciamola tutta. Ma intanto non so quando si andrà a votare, nel frattempo potrebbero succedere molte cose che magari mi spingono da un'altra parte. Insomma, la politica, il voto è come il taxi, lo prendi sul momento perché ti sembra che ti serva, e poi quando sei arrivato a destinazione scendi e magari prendi un altro taxi. E quindi, insomma, io non darei una valenza quasi religiosa, fideistica al voto. Non questo siamo vero, più ai tempi degli schieramenti, dell'appartenenza, delle ideologie. Beh, i comunisti non li votano. Quello volevo dire, sinistra non la vota. No, perché mai. Per me il comunismo è una malattia mentale dalla quale si può migliorare ma non guarire. Ah, del tutto non si può guarire del tutto. È impossibile. Mentre uno che ma questa è una cosa empirica, l'ho sperimentata. Cioè, quando uno è comunista, alla fine è fregato per sempre. Un po' comunista resta. Dal punto di vista, diciamo, cerebrale. Per cui Berlusconi si può dire innamorato di Renzi perché Renzi non è comunista. Beh, però una cotta pazzesca per Renzi. Berlusconi. Sì, penso anch'io che siamo a livelli lo vorrebbe avere come figlio. È il figlio politico che non no, ha ma come figlio proprio, come figlio. Secondo me lo vorrebbe avere figlio, cugino, insomma, vorrebbe che poterlo manovrare a proprio piacimento. Come un figlio, dai, come un figlio. Come un figlio, sì. È il figlio mancato, cioè quello che lui. Ma perché ha questa cotta? Cioè, tu te ne sei accorto proprio di questa cotta quando è l'ultima volta che hai parlato con Berlusconi? Perché chi si somiglia si piglia. Si somiglia, si piglia, è così. È un po' così, insomma. Poi lo vorrebbe a capo del centro. Se ci sono altre motivazioni, le ignoro. Lo vorrebbe a capo del centrodestra, questa è la realtà. Certo. Lo vorrebbe a capo del centrodestra, siccome non può per il momento, però ci va d'accordo, cerca dei patti, ma fa bene, pensa agli affari suoi Berlusconi in questo momento principalmente. Cioè, credo che abbia sempre fatto quello. Che pensa. Sempre pensato solo tanto è vero che se Berlusconi avesse pensato a noi con la stessa intensità con cui ha pensato a se stesso, saremmo meglio della Svizzera. Addirittura. Sì, questo invece se ne è strafottuto di noi. Se ne è strafottuto. Ma lo dici con questa serenità e l'ho sempre detto. Sì, ma l'ho sempre detto. Ma non lo so, ma è una cosa ghiacciante. Non lo sai perché non ti informi. No, ti ascolto, perché spesso invece quando io vengo qui tu dovresti studiare a memoria la mia biografia. Ma no, ma lo so che l'hai sempre detto. Che consta di due righe. Sì. Ma poi soprattutto un'altra cosa, adesso si è messo da un po' di tempo a scrivere libri, cose che non ha mai fatto, signor Feltri. No, l'ho fatto anche in passato. Sì, solo che non capisco perché non danno soldi i libri. Beh, ha scritto un libro, gli danno un grande, il Quarto Reich, con Gennaro San Giuliano, come la Germania ha sottomesso l'Europa, sì. E va bene, che è un libro che ha venduto un sacco di copie, da quello che mi risulta. Sì, abbastanza. Però quanti soldi hai preso da stare? Poca roba, o no? I libri rendono poco, a meno che tu non venda un milione di copie. Ma perché lo fai così? Perché un bel anticipo. Per divertirti. Non so se si può dire. No, siccome non faccio un cazzo in tutto il giorno. Ma no, dai! Allora, così come non vado in vacanza, così scrivo libri. Però questo... Impiega il tempo scrivendo. Allora, Berlusconi però ha detto una cosa di Fitto, io sono su Fitto e in questo periodo sto fissato su Fitto, che è eccezionale. Sei fisso su Fitto. Trovate un giovane all'altezza, ma chi è Fitto? Dice ai suoi, no? Trovate un giovane all'altezza, sì. Ma chi è Fitto? A suo confronto Alfano è Messi. Beh, devo dire che Berlusconi è sempre eccezionale. Cioè, sì. A suo confronto Alfano è Messi, ce lo considera proprio uno stracciaculo. È stato lo stesso Berlusconi che ha definito Alfano testa di quid, no? È stato sì, lui. No, che non quid. È quid, sì, testa di Va bene, sì, più o meno la stessa cosa. Per cui considera tutti degli stracciaculi, dai, su, ha ragione Ferrara, considera tutti delle nullità, sì, quelli intorno a lui. Tant'è vero che quando tu parli con Berlusconi, sì, se non parli di lui, manco ti ascolta. Cioè, se parli di altro. È così Berlusconi. Senti, l'ultima cosa, ma Napolitano perché ha deciso di dimettersi? Questo è pure un mistero, perché si è rotto le palle. Uno di 90 anni. Ma come cioè, mai? Io se avessi, quando avrò 90 anni, non li avrò mai perché no, credo vabbè, di adesso. Vabbè, come minimo userò il pannolone. Ah, tu dici quindi pannolone. Andare in giro a fare le visite di stato col pannolone. Ma scusa, non me la sentirei. Probabilmente cioè, anche lui ha questa idea. Cioè, tu dici che è il pannolone? No, io non ho detto che è il pannolone, sei beh, tu. Come no? Che vai, io ho detto no, che al suo posto, avendo 90 anni, andresti in giro col pannolone. Dovrei andare in giro col pannolone. La cioè, qualcosa ti disturberebbe. Mi disturberebbe specialmente nelle visite ufficiali. Sì, uno va a fare a trovare la regina di Inghilterra. Devo cambiare il pannolone, insomma, non è il massimo, sì, non è il massimo della vita, bisogna dire la verità. Il motivo vero, al di là della politica, è questo. Io cioè, penso che a 90 anni uno abbia il diritto anche di cambiarsi il pannolone a casa sua senza cambiarselo nei bagni, sì, della regina d'Inghilterra, di Westminster, chiedendo il permesso. Bravo, questo è il punto, no? Sì. Indovinato. Di Buckingham Palace, anzi, perché questi misti sono un'altra cosa. Grazie a Vittorio Feltri, grazie a voi. Grazie. Che adesso va a Bergamo, si dirige verso Bergamo per due giorni. Pubblicità, no. Non fai un cazzo, che poi è quello che poi di solito. Quindi non cambia rispetto al solito, diciamo. No, assolutamente. Pubblicità. Cambia la zona in cui sì, giro i pollici. Sì. Dal lunedì alla domenica, giornate sì, sempre uguali. No, io le vario, ma non faccio niente, diciamo, di lavorativo. Di lavorativo, sì, perché diciamo perché anche tu quando pensi... scrivo un articolo non penserai che sia lavoro. No, perché tu pensi di lavorare. Tu pensi di lavorare. Mai sostenuto? Sì, sì, lo so. Gente... Lui non saprebbe neanche da che parte cominciare, ma poverino. La mattina mi sveglio. E dopo che fai? Infatti uno mi ferma e dice, ah, lei è pagato per sparare strozzate alla radio. E me pagano pure. Gli devi dare torto tu. Chi è tira tra noi due? Questo non lo dico. Pubblicità. Ciao. Ciao. Sfruttate il momento. Entro 10 anni, come minimo, è un viaggio più nessuno. Cioè, capito? C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. La Cruciani è un'icona persona ora, lo sa? Ma veramente non mi risulta. Non mi risulta. Fra poco vi presento un personaggio straordinario che è un mio amico e io semmai diventerò omosessuale. Siccome mi piacciono le persone un po', non mi piacciono proprio i belli, perché non è bello, mi fidanzerò con lui. Ma io non capisco che non ti ha tirato mai una sberla in tutto questo tempo. Chi? Cioè, se tu, il signore che è qui a fianco a noi, sentire una roba così dovevi tirare. Perché? Ma mica lui è, mica si nasconde. Aspetta, prima voglio sentire. Hai detto che è un mostro, scusami. No, oggettivamente non è bellissimo, cioè non è proprio l'icona della bellezza. È una persona affascinante per mille motivi, ma non è bello. Uno che dice, lo vedi, non è che è bello. Si chiama Giovanni, poi vi dirò come si chiama di cognome. Ma non è, uno dice, oddio, che bello. Adesso tutti vanno su Google e appena gli dici il cognome lo sanno perché lo vedono in televisione. No, ma non è chiaro che non è, anche lui sa di non essere non avere le caratteristiche, essendo uno che si occupa di Giovanni, bellezza. Gli sputi in faccia. No, aspetta, adesso poi diremo il cognome e tutto. Non mi deve sputare in faccia, sa quello che dico. Cioè, non ha proprio le caratteristiche della bellezza maschile classiche. È un tipo, un personaggio interessante, una persona di grande cultura, una persona di spessore, una persona che mette i vestiti a tantissime attrici, ha lavorato con personaggi pazzeschi, è uno che conosce vita, morte e miracoli di gente che fa la televisione, di gente che fa il cinema. L'ho presentato in maniera, come dire, anche eccessiva, no? Come al solito. Però Fabio da Udine, poi voglio parlare con un personaggio che vi piacerà. Fabio, dimmi, oppure lo odierete per quello che dice. dice, perché comunque essendo un personaggio che appartiene al frociame italiano, anche se poi in realtà il frociame italiano lui non lo sopporta, diciamo, l'ambiente frocio italiano. Fabio da Udine. Fabio. Sì, buonasera. Era praticamente un'osservazione. Un'osservazione, sì. Considerando che l'aborto, diciamo, è un omicidio, la pillola del giorno dopo è un reato, l'ingoglio cos'è? Sì. Un cannibalismo. Scusi, sono le 20 e 18, trattasi pur sempre della radio di Confindustria. Questo filosofo qua, chi è questo filosofo? Allora, non ho capito, Fabio, allora lei dice... Io in sostanza, l'ho capita adesso, ad esempio. Allora, non l'ho capita. E non la ripeterei. Allora, abbiamo con noi Giovanni Ciacci, buonasera. Giovanni Ciacci è un grande consulente d'immagine. Ho fatto venire il caldo, guarda. Allora, ho fatto venire il caldo. Sì. Giovanni Ciacci, che ha scritto un libro che si chiama Divina. Che non è riferito a te, figurati a quest'altro accanto. Perché? Ma visto com'è conciato. Tu chiami tutti Divina, chiami tutti in questo modo. Benissimo. No, tu no. Adoro. Come dici sempre? Senti, tu non puoi competere con Rocco Siffredi della radio. Che poi me lo devono spiegare perché ti chiamano Rocco Siffredi della radio. Vabbè, questo poi lo spieghiamo in un altro. Ma tutte le mie amiche mi dicono: ma vai da Rocco Siffredi. Io dico: no, non c'è Rocco, parte per l'isola. E dice: sai benissimo che c'è qualcun altro che la pensa in maniera diversa su questa cosa qua pubblicamente. Che ha espresso delle. Tutte le mie amiche, conduttrici e attrici, ti chiamano il Rocco Siffredi della radio. Ma no, ma non è vero, giuro. Dai. Ma non l'ho mai sentito. Lo nascondono, lo dicessero pubblicamente. Almeno lo dicessero pubblicamente. Menti sapendo di mentire. No, ti giuro, non lo sapevo. Ma però se n'è andato questo. Spiegatemi la battuta di prima. Scusa, spiegatemi la battuta di prima. Io non l'ho capita ancora la battuta di prima. Aspetta. Aspetta, ma ripetetemelo un attimo, perché se n'è andato. Richiamatemi questo stronzo di prima. Fabio da Udine, là, come si chiama? Dai, richiamatemi quello là. Ha detto: se l'aborto è un omicidio. Se l'aborto è un omicidio, la pillola del giorno dopo. Allora l'ingoio che cos'è? Che vuol dire l'ingoio? Che cos'è? Sapete, non ho capito. Ho capito. Forse parliamo adesso libro, dai. Non ho capito, ma magari il signor Squinzi non è all'ascolto, magari il signor Napoletano non è all'ascolto, magari altri dirigenti si sono tutti. Purtroppo la radio della Confindustria, purtroppo sono tutti all'ascolto. Allora, vabbè, io voglio dire una cosa. Tu hai vestito e scrivi in questo libro come, quando e perché, e soprattutto tutte le donne dello spettacolo. Mi mancano solo due: chi? La Carrà e la Streisand. E perché? Perché non ci voglio lavorare. Perché non vuoi lavorare con la Carrà? Io non voglio sapere che la Carrà è riccia e c'ha i capelli neri, me ne frega niente. Cioè, che riccia dove, scusa? In testa. Ho capito un'altra cosa, scusa. No, lì dopo ti voglio raccontare una cosa. E invece non voglio sapere che la Streisand porta le calze contenitive. Sette. Non me ne frega niente. Quindi sono due icone, non vanno toccate, e sono le uniche con cui non voglio lavorare. Ma veramente stai dicendo? Ti giuro. Cioè, se ti offrissero un sacco di soldi per lavorare. Me l'hanno offerta in America con la Streisand per fare il tour. Io ho detto di no. Perché non la voglio sapere. A me mi piace vederla così, capisci? Il mito crolla al momento che ci lavori. Ma è vero. Tu lo sai, il 90% delle attrici, quando fanno le scene di nudo, hanno il tupè nelle parti intime. Come il tupè? Ma come non lo sai? No, non lo so. Ma io sapevo che quando vai con le attrici gliele fai scollare. Ma adesso gli stai costruendo una fama davvero incredibile. Però. Ma io non ho mai visto un tupè. Ma tu sai che in Italia c'è la censura: se si mostra il sesso così pulito, c'è la censura a 18 anni. Se invece il sesso è coperto da una peluria, la censura si abbassa. Cioè, tu. No, è il contrario, scusami, vabbè, comunque hai capito il senso. Cioè, sono come una cosa finta che si mettono lì con la colla. Ma la metti tu? E certo, chi gliela mette? Il truccatore e io. Sei frocio, te credo. Ma chi porta? Questa volta mi pare che gliel'ho servita sul prato d'argento. Da te se lo fanno mettere il tupè, come dire, no? Ma io pensavo che tu, quando poi le spogli, te ritrovi con questo tupè. Non morto. È che le spoglio, quando le spoglio e non le spoglio, non è che le spoglio che sono già col tupè lì. Magari se lo sono tolto. Non ti è mai capitato trovare in scena, no? Non ti è mai capitato. Ma poi non faccio nulla io in scena, non ho mai fatto nulla in scena. Io sapevo una storia tua che un giorno con una famosa attrice ti è capitato di avere il tupè sul comodino. Me l'ha raccontato lei. Ma una falsità assoluta. E chi è questa? È una molto famosa, non posso ma dire. Non è vero, ma state uomo, raccontando donna. Delle cose inenarrabili. Uomo o donna, attrice? Questo io voglio capire. Giovanni Ciacci, tu sei omosessuale? Sì, ovviamente, no? Ti piacciono? No! Sì, niente! Sei frocio, dai, sei frocissimo, sei frocissimo. Quelli classici grossi si chiamano Burr, come si chiamano? No? Gli orsi. Ma quanto ti piace a te sta cosa? Va, stupenda, la trovo stupenda. Quanto sei frociarò? Ma sei mai stato fidanzato? Sì. Ma sono fidanzato con te da una vita. Ma no, se... ah, no, no, no, Arezzo, no, dì la verità. No, io questo no, non lo so, però tu dici sempre, l'ho sempre sospettato io. Ogni no, volta che vedo Ciacci alla 7, ecruciani, ogni volta che vedo Giovanni Ciacci alla 7, lui ti dice dov'è il Cruciani, perché me lo voglio fare. No, il cru... fai così, no? No, no, no, dov'è, no, dov'è il mio fidanzato, ti dico. Ma tu sei a favore dei matrimoni gay? No, no, assolutamente. No, non te vuoi sposare? No. No, non ti sposeresti mai? No. No, manco l'adozione, figuriamoci, l'adozione, i bambini. È una scelta, quindi ognuno fa quello che vuole. Cioè, non appartieni all'elite frociarola italiana, cioè, tesoro, io alle associazioni. Io faccio cose, spettacolo, vesto spettacolo e vesto i sogni. Quindi non me ne frega niente né di politica né di associazioni né di... Ma associazioni... vediamo come vestono i politici. Vabbè, non perché non vuoi di manco però, che sei gay? Non capisco però. Ma come, non te l'ho detto finora? Ah, no, dici sei gay, non lo so, forse ma sì. Ma è un ventaglio. È un dato di fatto, ma c'ho un ventaglio in mano rosso, che è tutto due ore che mi sventolo, ma che te devo ballare? Il flamenco sopra il tavolo, ma non lo so. È stupendo. Cioè, hai visto un uomo col ventaglio? No. Sì, Bigas Luna. Bigas Luna era allora, estremamente etero. Possiamo e portava una cosa. Chi è che si veste peggio? Chi è che si veste peggio? Tra i politici, però. Tra i politici. Tra i politici, sì. Sì, sì, sì. Questo almeno sì. Bisogna... Salvini, ad esempio. A me piacciono molto le felpe di Salvini. No, dai, ti piacciono, sì, le felpe di Salvini. Secondo te hanno un'anima? Consiglio. No, no, le trovo giuste. Hanno un'anima. Hanno un'anima. Sì, sì, mi piacciono. Cioè, tu dici, se parli di rom e di borgate, stanno bene quelle... Vabbè, no, no, no, no, no, no, ha una sua identità. Cioè, se lo vedi in giacca e cravatta ti farebbe schifo Salvini, cioè. Non lo trovo più credibile. Mi piace più questa cosa della felpa, della cosa, come le maniche di Renzi girate, la camicia bianca Renzi con le maniche Renzi girate. Com'è? Figo. Figo, sì, sì. Cioè, si veste bene, c'ha, cioè, una bella immagine, sì, cioè, non, sì, dovresti doppio... aggiungere nulla a Renzi, no, non aggiungere nulla. Molto Kennedy. Berlusconi, Berlusconi è inguardabile. Beh, a me mi divertivano molto. Vabbè, ma c'è uno che si veste male però, cioè uno che vedi orrendo, cioè Bertinotti, guarda, vabbè, Bertinotti è finito, ormai è morto. Ma parli di Berlusconi, era Bertinotti, è considerato elegantissimo, era elegantissimo. Per me no, parliamo di donne, che è il mio campo. E le donne in politica, le donne politiche. La meglio vestita. La Boschi, com'è la Boschi? La Boschi è molto bella, molto vabbè, vestita. Tu c'hai una parola buona per tutti. No, no, no, no, la Madia. Quella che mi... no, non mi piace come si veste, invece mi piace la Santanchè. Vogliamo... ah, ti piace la Santanchè? Vogliamo parlare della Santanchè, della... almeno sua... quello dici. Beh, quella sfoga. Io tutte le volte che sfoga, che sfoga, sfoga nel senso coi vestiti. Ma che vuol dire? Cioè, sfoga nel senso che, cioè, ostenta, cioè, ostenta, fa vedere, ostenta, sì, fa vedere, vedere. Ma perché ti piace la ricchezza a te? La ostenta, no, vabbè, cioè, si può essere ricchi e vestirsi male, sì, naturalmente, sì. Ma certo, pieno, certo, di gente così. Ma di... certo. Ma certo che sì, però a lei mi piace, perché con quella borsa, con quella Kelly, sì, lei ci vorrebbe prendere a borsettate tutti. Beh, affrustate, ah, sì, affrustate. Ma l'hai visto su Ola il cesso della Santanchè fotografato? Ola, su Ola, su Ola, il Ola, giornale spagnolo, il glamour della Spagna. Ah, Ola, sì, sì. C'è il bidet d'oro. Ma non l'hai visto? No, non l'ho visto. Beh, ti perdi queste cose. A casa della Santanchè c'è il bidet d'oro. Fotografato, casa romana. Bidet d'oro. Il bidet d'oro. Amici Rom! Andate a d'oro di Pinto. Vi diamo l'indirizzo, è vicino Corso Vercelli, vicino Corso Vercelli. Madonna, lo sapete, no, lo sapete. Però mi dite come ma sarà, d'oro di Pinto, mica vero, eh. Ma che ne sai, ma beh, comunque sempre mi oro. Mi segnalano dalla regia che c'è il tuo amico ascoltatore di prima, che io però non richiamo. Io so che finiremo in un guaio. Io non ho capito una cosa, signor Fabio, è lui? Fabio da Udine. Sì, sì, ecco, buonasera. Allora, Fabio, non vorrei tornare su questa cosa, anzi, ecco, ci torno. Allora, qual era il paragone che lei ha fatto? Allora, eravamo l'aborto. Sì, allora, la mia è una riflessione per i moralisti. Dico, se l'aborto praticamente è un omicidio, la pillola del giorno dopo è reato. L'ingoio, cos'è? Cannibalismo? Sì, con ritardo, no, con ritardo. Vabbè. Abbiamo capito. Tu l'hai capito in ritardo. Perché tu l'hai capito in ritardo. Ritardo, sì. E che vuoi fare? L'Alzheimer galoppante, che devi fare? Lo so, Giovanni, che devi fare? Allora ti chiamano più Rocco Siffredi, allora. Ma no, perché ancora le pilloline non mi servono a me. Cioè, ancora sono a un punto in cui le pilloline non mi servono. Chiederò, farò due o tre telefonate a qualche amica. Ma perché devi fare queste telefonate? Non ho capito, amica. O conduttrice. Ma conduttrice, non, ma ti sbagli. Conduttrice, hai fatto la strage. Ma io ho sempre frequentato il popolo, non è vero il popolo. Le sciampiste, le cameriere, preferisco. A proposito, qual è quella di 60 anni, la conduttrice che ti piace tanto? No, ma tanto, ti detto che conduttrice, dichiari... una di 60 anni, una, ho avuto una storia, l'ho detto pubblicamente, con una di 60 anni. Io ero convinto che era una famosa conduttrice. Ma perché tu sei, vivi in questo mondo artificiale, io frequento il popolo, frequento la gente che mi chiama, frequento le persone normali. Io ero una coetanea. Ma non era una coetanea, io ero a 48, ma ne dimostro molto meno, scusa. Vabbè, ma la Ceretta della Moretti come l'hai vista questa cosa qua? Beh, fantastica. politica, no? Una che va dall'estetista una volta a settimana. Che ma dici? Lasciamole in pace, facciamoli fare la politica. Questa. Ma la Moretti come la consideri? Una sciapa? Sciapa. Tu che sei il consulente d'immagine, questa cosa la Ceretta non l'avresti detta, dai, su, diciamo no. La verità. Allora, dimmi adoro, dimmi adoro, quando dici adoro, Ceri, dai, dimmi. Non si dicono dimmi, queste adoro, cose. Dimmi adoro. Adori o non adori? No, dimmi quando dici. Ma no, ora che ti dico adoro, adoro. Così, buttato là. Pensa come si veste, male. Malissimo, ma il peggio vestito, lui non si può guardare. Ma non è vero. Ma lo sai quando lo trovo ospite delle trasmissioni, lo tratto malissimo. Dico, sì, ma non giusto, te vergogni, ragione, ma sì. Come sei uscito stamattina? Ma sei uscito, oggi c'hai una giacca bella, ma ti sei vestito perché ci sono io? No, ma lo sapeva. Sì, anche secondo me lo sapeva. Sono perfetto oggi. Sì, oggi sì, ma di solito. Di solito così. No. Perché? Io come sto? Adori. Te adoro fondamentalmente. Adori. Ma io, ma scusate, ma questa trasmissione è sponsorizzata dall'Arcigay o da Gente.it? No, chiedo scusa. Vabbè, io sarei con Giovanni Ciacci una vita, ma se ne deve anche andare perché incredibilmente è anche consulente d'immagine di Dario Fo, del nostro amico Dario Fo. Un nome. Cosa dai, stasera c'è, ma lo, c'è lo spettacolo all'Arcimboldi. Ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Vabbè, e comprate sto libro, Divina sì, di Vallardi. Vabbè, Vallardi. Però un giorno vengo a trovarti e ti racconto tutti i segreti. Ma i segreti di chi è la più porca? Secondo te? Ma di che cosa? Questo è tanto che c'è. C'è la più porca di tutte. È tanto che c'è. Delle penso. Conduttrici, delle uova. È tantissimo. C'è proprio la più puttana. Chi è? Ciao. Buonasera. Ma se non mi dici questo, che me viene a dire? Che me viene a raccontare? Sono tutti belli, bravi, buoni, tutti vestiti bene. Non me ne hai detto uno che si veste male. Uno che vedi che si veste, a parte Parenzo. Ce l'hai accanto. Parenzo non conta un cazzo. Parenzo non conta nulla. Dimmene uno che vedi in televisione che dice: no, questo qua è terribile. Si veste. Vespa. Dimmi la verità, Vespa è terrificante. Ma dai. Come sparare sulla Croce Rossa, dai. Ma vedi che però, lo vedi, pubblicità. Tipi da Zanzara. Donato Varese. Salve, io voglio dire una cosa. Dimmi. La RAI non è mai stato una cosa pubblica. La RAI è stata dei partiti, non è stata una cosa partiti. Pubblica, dei partiti. È un ammasso di porci, è un ammasso di porci. Adesso questo mi pare. Vabbè, poi un ammasso di porci adesso. Mi pare che lei si è fatto prendere un po' la mano. Si è fatto prendere, le è slittata la frizione, come dire, no? È un enorme accozzaglio di nulla facenti, dei calculisti scavi, non indicati. Diciamo, io non capisco. Sì, un certo Franco Di Mare. Ma che c'è? Gerardo Greco. Ma perché? Ma lei è una psicopatica. Duilio Gianmarino. Ma lei è psicopatico. Fammi sentire questo. Questi tre cornuti, mi devo dire, è pazzo. Con quale aspetta. Modalità sono entrati in Rai? Concorso hanno fatto. Alcuni hanno fatto il concorso. Ma questo è pazzo. Concorso esordo hanno fatto. Ma hanno fatto una minchia. È una cozzaia, un cesso enorme per i raccomandati. Io pago il canone se la RAI mette le telecamere al contrario. Fa vedere che cazzo c'è dietro. Voglio una RAI con le telecamere. Donato, non Donato. Aspetta, fallo parlare che sto Donato. Dimmi, Donato, vuoi una Voglio una RAI con la telecamera al contrario. Voglio vedere dietro la Clerici. Chi cazzo c'è? Altro che quel porco arabo che gli dà 5.000 euro a puntata. Ma dove cazzo siamo arrivati? Questa ma in un camping trovo un arabo di merda che non sta nemmeno parlando. Vieni, cazzo bello, ti porto la trasmissione. Ti faccio dare 5.000 euro a puntata. Fondazione. Però scusami, Donato, tu lo paghi il canone, Donato? Io il canone purtroppo prenotazioni lo pago perché sono costretto a farlo. Dove sta lei a Varese intanto? Va, mi dica la zona. Allora il caro, qualora io dovessi diventare povero, non potessi pagare perché mi stacco la corrente, io qua ammazzo qualcuno. La RAI deve essere espoliata da tutta quella merda infetta e infinita che c'è una struttura pubblica. La RAI ha un potere incommensurabile e deve dare importanza. Abbiamo capito. Fermati. Dove ci vuole un'ambulanza? Dici che ci vuole un'ambulanza. Per Io voglio far cadere una bomba sulla RAI. Appunto, per questo, appunto. È urgente, amici dell'ospedale di Varese. Una bomba invisibile, una bomba. Fammi parlare con l'operatore. Ma è chiuso. Ha chiuso, beh, giustamente ha chiuso. Tipi da Zanzara. Allora, sai Parenzo che potrebbe nascere addirittura un Donato da Varese Fans Club. Questo lo temo molto. Donato da Varese. Qualcuno mi ha detto che potrebbe nascere un Donato da Varese altri per di giorno. Ma no, sarebbe eccezionale. Devo dire che ha la sua efficacia Donato da Varese. Lo vorrei conoscere, Donato da Varese. È impossibile perché è ricoverato sotto tutta sorveglianza. Ma non è vero, non è vero. È legato attorno a un letto, cioè è legato a un letto e ci sono 8 persone attorno. Senti, lo sai che sono veramente contento di non aver parlato dei 5 Stelle, di questa puttanata dell'espulsione dei 5 Stelle e soprattutto del fatto che Grillo, ha creato questo direttorio, sì, direttorio di 5 persone, dicendo che è stanchino. L'ha sottoposto a un voto della web, sì, e ha il 91% a favore. Ma come mai i voti del web di Grillo sono tutti a favore delle tesi di Grillo e di Casaleggio? Cioè, ci sarà un motivo? È evidente, dai. Perché? Perché siete morti, non contate un morti. Ma siete. Chi? Ma chi vota? Veramente le ho chiesto un'altra cosa io. Io ho detto che sono morti, ma fanculo, che devo no, dire? No, ma perché i voti sono sempre come dice lei, Grillo? Ma perché non ho così? Perché il web ha deciso. Ma d'accordo, però e come se mai? Se non ha deciso, espello il web. Ma come fai a espellere il web? Voto cioè, via il web, non conta più niente. Cioè, se votano contro se quello che dice lei? Se votano contro, spacco il computer, non serve. E inventerò un altro ma non è possibile, 91.9%, la rete. Ma ho capito, la rete. Anzi, voglio trovare queste 10%, dove chi cazzo ha votato contro? Quello è come Assad, diceva che voglio scoprire chi ha votato il 2% che ha votato contro. Saranno gli amici di Casaleggio che mi vogliono fare la pelle, alcuni contro di Casaleggio. Dai. Va bene, grazie Grillo. Casimiro, provincia di Messina. Casimiro. Io voglio provare a chiamare. Ma scusa, ma della vicenda di Casa Pound, della manifestazione che hanno fatto oggi i signori di Casa Pound a Roma, bloccando l'ingresso ai bambini rom che stavano entrando in una scuola romana, e questi signori di Casa Pound hanno fatto una gazzarra indegna. Cioè, qui bisogna mettersi d'accordo. Allora, i rom non li volete, no? E questo d'accordo. Non li volete chi? Tu, Salvini, Casa Pound. Io voglio che si cerchino la casa come tutti. Poi vanno, non vogliono i rom. Poi vanno a scuola e non vogliono, no, non devono stare in metropolitana. È Casa Roma che poi vanno a scuola. Sì, Casa Roma, Casa Pound. Casa poi vanno a scuola. Casa Roma è bellissimo. Non devono, Casa Roma. Non devono, sì, bisognerebbe fare Casa Roma. Una bella, bisognerebbe fare. No, un movimento politico a Casa Roma. Un movimento politico Casa Roma. Vabbè, d'accordo, a me non me ne frega niente di quello che fa. Secondo me non arriva allo 0,1%. No, secondo me. Però, secondo me quello che ha fatto Casa Pound non me ne può fregare di meno. Dico semplicemente una cosa sui signori rom, che non la penso come la russa, anzi sì, la penso come la russa, che sono culturalmente un po' dediti alla truffa, al furto, diciamo. Beh, sarebbe come dire che i napoletani è la stessa generalizzazione. Ma no, ma l'ha detto la russa. Sarebbe come dire, vabbè, uno va a Napoli e diceva i napoletani sono avvezzi, diciamo, a farti la truffetta. Sarebbe sbagliato. Qualcuno gli dice di sì, però invece è sbagliato. Molti la pensano perché così, siamo a Milano. Sentiamo Casimiro dalla provincia di Messina. Signor Casimiro, che non è il giocatore, che si chiama Casemiro, però. Casimiro, provincia. Dimmi, amico mio, sì. Dimmi. Buonasera. Pronto? Sì, dimmi, ancora, dimmi. Buonasera, dimmi, intanto come lo sopporti tutto il giorno, tutte le sere a suo signore, non ti lascio un attimo di pace. Senti una cosa, un tempo fa un noto giornalista italiano si è permesso di paragonare, per dire che all'estero dall'Italia non vanno soltanto persone per bene o istruite, ma partono anche calabresi. Questo stronzo ha usato questi termini. Stasera avete detto, per fare il parallelo con il rumeno che ruba, passa il siciliano e forse non ruba. Ma l'ha fatto la russa, che è siciliano peraltro. E l'Italia è piena di ladri. Dite semplicemente l'italiano e non usate più, non rompete più con questa fatta del siciliano, del calabrese e così via. Ma l'ha fatto la russa, per fare un esempio, perché lui è siciliano. È un traditore, perché è un figlio di siciliano, non è che siciliano, altro che fratello d'Italia. Vabbè, ma non ha detto niente di grave. Un siciliano forse non ruba. Chiedo scusa, lei ha telefonato per questo? Sì, lei ha telefonato solo per capire un attimo. Ha telefonato perché si è sentito offeso dal paragone con i siciliani. Ma lei è completamente fuori. A Milano, a Torino, a Livorno, a Fingo. No, ma è per capire, scusi, mi faccia capire. Da quanto tempo è in attesa di intervenire in linea? Solo per capire, quanto tempo è che è in attesa? 5 minuti. Da quanto? Da 5 minuti. Lei ha sentito la trasmissione, le è montata la rabbia, ha preso il telefono, ha fatto 800 24, no, è rimasto in attesa. Io mi seguo tutte le sere quasi e mi piace anche ascoltarmi. Ma cavolo, ora siamo stanchi, basta. Siamo stanchi. Siamo chi? Vabbè. Il 90% dei siciliani. Funziona sempre dire ora basta, ora siamo stanchi, quello funziona sempre. Vabbè, ciao. Franco Alessandria. Non Franco. È possibile andare avanti così. Franco, non è possibile andare avanti così. Dimmi Franco. Pronto? Dimmi. Buonasera. Sì. Mi sente? Sì, dimmi. Avanti. Era per rispondere a quel signore che doveva guardare gli occhi belli. Sì, quello che non li si rizzava con la prostituta, sì. Io la notizia fondamentale di questa sera. Io ho degli amici che sono all'esatto contrario, se non pagano non sono prestazionali. Hai capito, sì. Ho capito. Anche lei quindi, telefona, sì. Ma tutte queste esperienze di vita. Ma sono le cose vere della le cose vere della vita sono queste, sì, non le chiacchiere sulla politica. Però, allora no. Io non capirò mai psicologicamente uno che telefona in radio e dice che non gli si rizza. Io psicologicamente, da un punto di vista proprio personale, non lo capisco uno che telefona in radio. Cioè, Franco, scusami, ma lei va a prostitute? Abbastanza. Ecco, ma questo qua è buono però, però non si ecco un altro sfruttatore. Ma abbastanza peraltro. Che vuol dire? Ecco uno sfruttatore. Ma abbastanza nel senso che il mio amico va solo più a prostitute. Beh, lei è lui poi il suo amico in realtà. Ah, come si dice, no, non così, è l'unico amico, perché quando porti a cena una che comincia, che è vegana, che c'ha il cane, che devi vedere i film di Will Bender, che devi leggere La Tus o PQC, e quello lì si smonta e non ha torto, non però più. Questo, scusa, fammi quindi, no, devo dire la verità, la Tush, no, ma devo dire la verità, la decrescita felice, ma beh, tu infatti non scopi, però il punto è un altro, cioè la cosa fondamentale che ha detto questo signore è questo: pur di non invitare una a cena, sì, che ti fa due palle, così sono vegana, devi fare le discussioni eccetera, uno, sì, dice paga, no, giusto, Franco, sì, tu paghi, certo. Certo, no, certo, io dice, certo, un criterio, certo, base: se la tipa ha, sì, il cane, out. Perché ho capito, siamo che oltre alla concezione tolemaica e copernicana c'è la concezione, sì, di quella che c'è Bobby al centro dell'universo e tutti i pianeti e le galassie girano attorno a Bobby. Sì, ma questo anche qui non ha torto, però, cioè se una ha il cane dovrebbe essere cassata. Capisco. Cioè poi dopo il cane, no, che no, c'è? Lei si tenga il cane, io vado a zoccole, è bello che è finito il discorso. Beh, chiaro, sempre. No, un discorso ma poi, scusi, se uno altra va categoria a zoccole, sì, con una brasiliana, una thailandese, sì, eccetera, leggono, sì, delle altre cose, guardano degli altri film, non mi obbligano, sì, a condividere i loro interessi. No, eh, chiaro, chiaro. Beh, no, chiaro. In qua infatti sono prostitute. Infatti si trattasi, no, di prostitute. Ma non sono mica tutte analfabete, eh. No, no, ma ci saranno carità anche delle intellettuali, sicuramente, figuriamoci. No, ma perché? Sei, no, no, no, ma infatti, sei razzista. Io, no, sei razzista con le prostitute, no, pensi che sono tutti ignoranti? No, tutt'altro. Sì. Dico a questo signore che però spesso sfrutta delle donne che sono costrette, ma lascia, a fare. No, sfruttare un attimo, perché magari una nigeriana mantiene, ecco, tre fratelli, quattro bravo, sorelle, bravo, eccetera, eccetera, cioè con i soldi, con i magari soldi è contento, fa la zoccola, guadagna sempre di più che lavorare un attimo, fermo là. Scusi se fermi. Interrompiamo la sua lectio magistralis, no, sì, perché voglio chiedere a Nicky Vendola questa cosa di Human Factor, io non ho capito una mazza, a Vendola? Sì, a Vendola, cioè, ma non risponderà, sì. Vendola, buonasera, sì, chi parla? È la Zanzara, buonasera, come sta? Buonasera, stiamo bene. Buonasera. Dica. Scusi, dove si trova adesso? A Bari, a Roma? Come lei è spesso a Roma, pur facendo il presidente della Bunda? No, in questo momento mi trovo a Terlizzi. A casa, a Terlizzi, della mamma? A Vabbè, Terlizzi, normale, no, mi dica. Scusi un attimo, ma sembra che nasca questo soggetto un po' alternativo al PD, ma come si chiama? Human Factor, come si fa a chiamare Human una cosa? Factor, esattamente. Ma cosa, la fattoria di Ma che vuol dire cioè, Human Factor? Human Factor è dedicato a uomini e donne normodotati e iperdotati, diversamente sensibili. Il cuore di questo spiazzante magistero di Papa Francesco, il fattore umano, questa straordinaria risorsa, viene compressa, mercificata, adombrata nell'icona luciferina dei bizantinismi dei politicanti. Vabbè, lei è partito subito così, però scusi un attimo, in che cosa consiste? Cioè lei vuole stare alla sinistra del Partito Democratico, vuole fare una concretamente proprio alla Leopolda? Allora, ecco, allora concretamente dicendo tutto e sintetizzando al massimo, ecco, appunto, sì, che noi federiamo, intendiamo federare tutte le esperienze, tutte le, sì, storie, le culture, sì, della sfida, la sfida umana del fattore umano, questo mix che vuole battere mix, l'opzione di destra e l'opzione di sinistra, una sorta di scarabeo di esodati dimensionati, le discussioni della domenica equiparate a quelle dei giorni feriali. Ma io non ho capito una mazza, stato chiaro. No, non è stato chiaro. Io vorrei capire una cosa, non si capisce niente, come sempre. Lei vuole essere l'alternativa a Renzi a sinistra, questa è la cosa più chiara. E questo mi sembra un po' riduttivo in questa... No, appunto, sì. No, ma ecco, è la, l'unica realtà. Però la conclusione, human factor, perché proprio human factor? Che sembra una cosa da... Beh, no, fattore umano. Glielo spiego, è molto semplice. Sì, però, sì, molto veloce però, Vendola. Sì, sì, uomini e donne, normodotati ed iperdotati. Questo human factor, fattore umano, che non è previsto da diritte vaste al territorio precarizzato, regalandoci degli eventi meteorologici estremi. Ebbene, caro Cruciani, in questo racconto pieno di favole e di inganni, questa mitologia medievale, violenta, antica, tribale, deve risplendere questa straordinaria risorsa. Vabbè, come al solito continua a parlare, grazie. Vendola, arrivederci. Tanto continua a parlare. Arrivederci, Vendola. Un siciliano forse non ruba. Ma se lui non lo so. Ma quello di prima c'è ancora? Quello di prima non c'è più, Mario da Roma, dai Mario. Dimmi. Giuseppe, caro, sta a posto. Dimmi. Allora, ascolta, secondo me la discussione c'è questa. Premesso che in un paese civile nessuno dovrebbe prostituirsi per mangiare, per tirare a campare. Nessuno. Vabbè, un paese civile. Ma la prostituzione esiste da quando esiste l'uomo, praticamente. È solo Parenzo che pensa Io dico no allo sfruttamento. Se uno ma vuole no, fare... ma che cosa strana? Ma quello è fondamentale. Ma però. Che cosa strana? Sarà strana, ma è fondamentale. Ma che cosa banale che dici? Ma grazie. Parla con i poliziotti, con i carabinieri che battono materialmente le strade. Ma siamo tutti contro lo sfruttamento. E allora genio. Non dovete andarci, dovete legarvi il pisellino e non andarci vado, e guardarvi un filmino. Ma che vuol dire? Rima. Perché fino a quando ma non sei diventato saranno... di un bigottismo ma pazzesco. Non è bigottismo. Ma portavi in trasmissione le peggio mignotte quando eri a 20 anni fa, 15 anni fa. Portavi tutte le troie possibili ma immaginabili. No, quelle mai. Tutte le hai portate. No, le hai portate quelle tutte. Mai. Ho portato prostitute e transessuali. No, ecco, bravo. Gente col pisello. Quelle portai in trasmissione. Sei diventato ma non è vero, portai in trasmissione Mario. Anni fa Pia Covre, che era la presidentessa del comitato diritti civili delle prostitute. Vabbè, Mario, allora... ma la Pia Covre era una che voleva farla e darla via a pagamento. Faccia la medaglia. Allora siamo seri sulle prostitute che stanno buttate per strada, che allora? Lo sfruttamento no, Giuseppe, qua dobbiamo essere seri. Meno male. Come siete banali, allora, siamo tutti d'accordo su questo. Quelle buttate per strada, pure gli appartamenti che vengono sfruttate devono essere salvate. Io proporrei un numero verde dove queste persone si possono risolvere. C'è già un numero verde, c'è già, ma non funziona. Me ne vado, perché ascoltatori col pisellino come quello di prima invece ci continuano ad andare. Ciao, vai, ci sentiamo lunedì. Ciao. Lorenzo, tu da quant'è che non scopi? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un siciliano forse non ruba, forse lui non lo so. Radio 24, la passione. Ti prego. Si sente.